quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. A questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Allegramente col consenso generale la frittata è fatta. Tra guastatori e giudici d'assalto, tra sceneggiate e mimici d'ascolto, praticamente la frittata è fatta. Paesa. È la dimostrazione che il centrodestra, quando è unito, vince. Non mi piace il derby nel centrodestra. È come se contiamo i punti dei giocatori della stessa squadra. La stessa squadra gioca per vincere nella porta avversaria. Noi abbiamo vinto. Dai dati in nostro possesso che ci giungono dai livelli territoriali del partito, possiamo dire che si consolida il 5-2. A Vincenzo De Luca terremo il fiato sul collo, ma soprattutto deve necessariamente in questa tornata rispettare la legge, e sa bene che lui è ineleggibile per la legge Severino, quindi ricorsi, tutto quello che serve. Sappiamo bene che è contro la legge la sua elezione. Rimane il fatto che si delinea una nuova vittoria del centro-sinistra in Puglia. Io su una TV ho visto Lupi che era piuttosto acceso. Sì, perché non c'era il dato dell'NCDE, ma se non hai preso un cazzo di voti. Tutte le polemiche, il Veneto, Salvini butta fuori Tosi, qua si perde, vincerà Moretti, qua mi sembra che sia finita 7-0 palla al centro, Matteo. Anche alla faccia dei traditori, dei caregari, adesso ce la diciamo, dei poltronari che hanno scelto la poltrona al posto dell'ideale e la loro poltrona se la infilano là dove dico io. Hanno vinto tutti, come sempre, hanno vinto tutti alle elezioni, tutti, hanno vinto tutti. Allora, sono le 6:27, cari ascoltatori, questo è 24 mattino, è lunedì 1 giugno e noi siamo in diretta, altro che ponti, pontoni, pontelli, pontini, puntiglioni, puntigliosi. C'è Pietro Lacorte in regia, capisci che già c'è qualcosa di strano da questo. C'è Lorenzo Nespoli che ha già fatto 80 km correndo da una parte all'altra, non ho capito perché, ma se fa così vuol dire che c'è qualche problema. Tipo non vanno i telefoni? Non vanno i telefoni? No, dimmi. Non vanno i telefoni, mi guarda e dice non vanno i telefoni. Però incredibilmente abbiamo gli ospiti al telefono. Sono cose che capitano. Verrebbe da dire così. Allora, sì, anche noi vi riempiremo di dati, numeri, percentuali per raccontare cosa sta succedendo nelle regioni. Dove si oggi andiamo in diretta fino alle 10, peraltro, fino alle 10. Cioè, invece faremo la colazione con l'abbacchio invece che col cappuccio. Allora, che cosa sta succedendo nelle regioni? Beh, si profila un 5-2, qualcuno l'ha detto, cioè 5 regioni al centro-sinistra e 2 al centro-destra. Il dato più clamoroso forse è la vittoria in Liguria del centro-destra di Giovanni Toti. Dunque la sinistra perde la Liguria, già subito le accuse, Renzi pare che abbia detto è colpa di Cofferati, è colpa di Civati che ha spaccato il tafazzismo della sinistra. Vabbè, comunque in Liguria il risultato più inatteso, Toti che vince, mentre vabbè, si conferma Luca Zaia, nettamente stroncata la Moretti, 54% a 23-1, In campagna è testa a testa, ma in testa De Luca, 40,2% contro il 38,2% di Caldoro. Pare in testa, ma siamo a metà sezioni scrutinate, Però De Luca è in testa, anche se di un paio di punti percentuali. In Puglia vince nettamente Emiliano, in Toscana si conferma Rossi, centrosinistra. Nelle Marche Ceriscioli del centrosinistra e in Umbria nella notte in Umbria si diceva che il centrodestra poteva superare clamorosamente con Ricci Catiuscia Marini, e invece ha vinto il centrosinistra con Catiuscia Marini, dunque 5-2. Ma ci sono tante considerazioni da fare. Per esempio, in tre regioni il Movimento 5 Stelle pare il primo partito: Puglia, Campania e Liguria. Allora, siamo qua. Pietro Lacorte l'ho salutato, Lorenzo Nespoli pure. Sono le 6:30 minuti in punto. Vogliamo salutare subito intanto il nostro collaudatore di sbarre sulle autostrade d'Italia. È il nostro Federico Novel. Eccolo, ciao, come va? Bene, tutto a posto. Tu? Sto correndo a preparare lo specialone di mattino 5. Tu vai in onda fino alle 2, no? No, specialone, 2 ore di dati, opinioni, analisi, ragazzi. Tutti potranno dire a parole chiare che hanno vinto loro. Sì, tutti hanno vinto oggi. Perché no? I numeri non contano niente. I numeri non contano niente. Italia è sempre stato così. Ma noi non parleremo solo di questo, parleremo anche di cose diverse. Dai, tanto fino alle 10 vi riempiremo di... Vabbè, continua a girarci intorno, ma insomma vi riempiremo di... Dillo tu, Novella. Vi riempiremo di... Numeri, di entusiasmo sulle elezioni regionali, ma parleremo anche di altro. Intanto voglio salutare una presenza femminile che è la nostra pensatrice. Veronica! Sigla da striptease, però. No, come striptease? Sì, no, la nostra. Che ne sai che sto facendo io? Infatti, Federico, adesso. Veronica Gentili. Buongiorno, ragazzi, bella la vita. Voi avete dormito ieri? Non l'avete fatta la maratona regionale? Ditelo. Perché tu sei stata sveglia tutta notte? Sì, sono stata sveglia fino alle 4:30. Per le elezioni regionali? Sì, l'ho fatto. Su, il masochismo della sinistra, scusami, mica si può parlare. Fammi capire, tu sei stata sveglia fino alle 4 di notte, e la frase fino a questo punto ha tutto un senso, per le elezioni regionali. Sono stata allo striptease, poi ce l'aveva doppiamente, e invece no, sono stata a guardare le elezioni regionali, sì. Vabbè. Questi sono i problemi delle nuove generazioni che bisogna affrontare più presto. È così. Allora, si parla del nichilismo, no? Queste cose, sì. non avere più, non trovare un senso, non sapere cosa fare. Io mi sono attaccata alle regionali, che devo fare? Vabbè, adesso ci dirai come hai reagito alla vittoria di Giovanni Totti. Però, prima apriamo il Parlamento, perché come sai, Veronica, noi ti dobbiamo fare la domanda d'ingresso qua. Non è che possiamo. Tanto ti sei preparata tutto sul calcio? Calcio, cioè, fanno scoppiare scandali per risolvere questo problema. Allora la storia della FIFA ci sono dietro io. Ma no, dai, la domanda è semplice, vediamo se puoi partecipare. Sai che c'è Juventus-Barcellona sabato, questo lo sai? Certo, ecco, sì. Perfetto. Allora, il Barcellona si presenta bello gagliardo, no? Perché ha vinto la Coppa del Re. Sì. Coppa del Nonno, no? No, te lo dico io, la Coppa del Re. L'ha vinta in finale contro... No. Ma ti rendi conto che vai a scagliarti da solo così contro il muro? Allora, Federico, scusa, non suggerire. Noi eravamo rimasti al fuorigioco. Tu mi fai il corso avanzato. Allora, guarda, fermi tutti. Allora, Veronica, non sai questa domanda, ma eccezionalmente noi siamo buoni a 24 mattino. Siamo buoni. Grazie, ragazzi. E allora, avete dormito? Io no. Eccezionalmente, per una volta, ti diamo la possibilità di un aiuto a casa. No? Sì. Vabbè, tra poco ti daremo la possibilità di un aiuto a casa. Tu stai con noi, vedrai. Intanto vuoi pensarci un attimo? C'è la finale. No, guarda, io non ci penso nemmeno. Cioè, dovrei andare a googolare, mi vergogno, capito? No, non googolare, perché la cosa è brutta. La coppa del re. Dai, ma sai che è una competizione abbastanza. Non è la coppa del nonno. Ce le berri, ma proprio la coppa del re per me. La mia vita verte intorno alla coppa del re. Sono cose che, vabbè, Federico, che dobbiamo dire? Non so, vuoi dare un aiutino? No, non dare la risposta, però, perché sennò così è facile, la dobbiamo squalificare poi. Ma dici a me? Sì, sì. No, mi stavo pensando al fatto che Veronica si era preparata tutti i dati delle elezioni fino all'ultima provincia delle Marche e tu gli vai a chiedere la Coppa del Re, cioè veramente una cosa crudele. Ma dai! No, diciamo che l'aiutino che ha vinto con una squadra molto, molto, come dire, atletica. Possiamo dire così? No. Va bene, quindi deduco da questo soltanto così, proprio per un fatto induttivo, che era una partita nazionale. Beh, nazionale, la Coppa del Re, la Coppa, sì, sì, la Coppa che si gioca in Spagna. Non era una partita sentite, rionale, no, sentite come affranto Novella, sì, sì, sì, no. Era nazionale. Cioè, sì, vabbè, qua siamo prima della BC, prima, vabbè, comunque, allora, Veronica, tagliamo la testa al toro. Allora, come ti ho detto, siccome noi siamo buoni, qui a 24 mattino, siamo buoni, eccezionalmente per una volta abbiamo la possibilità di farti fare una richiesta, un aiuto a casa come nei migliori quiz, nei migliori quiz italiani. Allora, visto che abbiamo l'aiuto a casa, ce l'abbiamo l'aiuto a casa, vediamo, via, pronto? Pronto? Pronto? Ce l'abbiamo l'aiuto a casa? Chi è che c'è a fare l'aiuto a casa? No, non si sa. Pronto? Non riusciamo a collegarci con l'aiuto a casa. Niente, vabbè, niente, non riusciamo a collegarci con l'aiuto a casa. Pronto? Pronto? No, no, non abbiamo l'aiuto a casa. L'aiuto a casa è entrata in sciopero. L'aiuto a casa è una settimana che l'aiuto a casa. L'aiuto a casa è entrata in sciopero, non lo so. Sta licenziando in diretta. Pronto? Pronto? È l'aiuto a casa? Eccomi, è eccezionalmente per noi la conduttrice della trasmissione che seguo di più, ma non posso dirlo, tutti pazzi per RDS, la nostra Rossella Brescia. Pronto? Buongiorno. È il nostro. Lo so, ti abbiamo rubato due minuti da tutti i pazzi per RDS, scusaci, perdonaci, ma c'è un aiuto a casa da allora Veronica Gentili deve rispondere a questa domanda: con chi ha vinto la Coppa del Re il Barcellona in finale? Ma l'aiuto con chi? Al Camp Nou, per caso? Sì, al Camp Nou. Ah, sì. Allora è l'Atletico Bilbao, sì, me lo ricordo. L'Atletico Bilbao, esatto! E vince la squadra femminile, dai così! Ma scusami! È incredibile, ma non sai veramente nulla, Veronica, dai! Ma Veronica, ma scusa, il 3-1, che ti ricordi che anche chi ha segnato... No, ti ricordi, ragazzi? No, così no. Io ho puntato tutto su di te, cioè io ti delego tutto il mio sapere. Rossella, che tra l'altro era allo stadio, al Camp Nou. Ah, sì, certo. Vabbè, ha segnato. Ero allo stadio e so che insomma aspiravano a questo doblete. Ah, il doblete. Speriamo ora nel triplete, insomma. Speriamo nel triplete. Ma no, tu devi dire di no, tu devi dire tengo la Juve. No, ma io sono, scusami, io sono della Roma, quindi figurati. Oh, brava Rossella. Brava Rossella, quindi sabato ti ferai? Ti ferai sabato? Dovresti fare il Barça, però a me non me ne frega niente e niente, non ti farò niente. Non ti farei niente. Vabbè Rossella, ti dobbiamo lasciare a tutti i pazzi per RDS, perché come dire è un'altra trasmissione da portare avanti, però ti ringraziamo per questo aiuto a casa. Veronica. Per favore. Sì. Veronica. Sì. Forza, dai, non ti buttare giù, dai! Ci provo, ce la metto tutta, sono molto depressa, ma ce la metto tutta. Va bene, grazie Rossella Brescia. Un saluto anche, ciao ragazzi, buona giornata. Grazie, buona trasmissione ovviamente. E questo... Radio Verità. Vabbè, Veronica, tutto a posto allora. Che bello, che emozione forte che mi avete fatto vivere, l'aiuto da casa, grazie. L'aiuto da casa. Allora, passiamo alle notizie interessanti, le regionali. Mi stavo divertendo così tanto, dobbiamo parlare per forza di politica. Dobbiamo parlare di regionale. Allora, dai, Veronica Gentili, chi ha vinto e chi ha perso? Decidilo tu, tanto. Allora, io lo posso dire, perché per me non devono aver vinto tutti. Quindi, allora, ha perso innanzitutto il PD, ha perso Renzi. Punto. Deciso. Mi chiedevo se adesso questa riflessione, se ci sarà una riflessioncina una sola che si degneranno di fare, oppure se dovranno attaccarci adesso questa pippa tutta la settimana in loop, che in realtà loro sono soddisfatti perché hanno vinto. Perché in realtà è andata catastroficamente, nel senso che l'unico a mio avviso, anzi non l'unico, ma uno dei segnali, perché altri non mi piacciono, ahimè, che si coglie da tutto questo è che Renzi non è più percepito da nessun punto di vista come il vento del nuovo, il rinnovamento, il vento del Mamma mia, la metti giù tragica, Sì, sì, beh, assolutamente, cioè si è fatta tutta questa filippica sul fatto che bisognava ritagliare una nuova fetta di voti moderati perché si rinunciava a perderli a sinistra, quindi tutta la famosa annosa vicenda per cui tutta una parte del PD, ma nel senso intendo elettori del PD, non le correnti interne, si sentiva già in qualche modo snaturata, violata, e invece l'altra fetta non è stata rosicchiata, la famosa fetta di moderati, perché invece c'era un'offerta di altro tipo e perché poi non è stato quello l'elemento secondo me. E a questa considerazione si è arrivata alle 4 del mattino, dopo tutta una notte. Ragazzi, cioè, questi lavora, mica ti batte la fiacca. No, ma per carità. No, però mi sembra un po' tragico. Ho tweet a tutti e due, ma ieri sera non mi avete più cagato nessuno dei due. Ma che ora? Ma che ora, scusa? Boh, lo so, è tre. Vabbè, ma Federico c'ha tre figli. Io alle tre, ragazzi, ero stato già da tre ore. Ma hai mandato un tweet alle tre e ti lamenti che non ti ho risposto. Ma ragazzi, col veleno, voi che state facendo? Ragazzi, la vedo malone. Capito come è difficile gestire Veronica Gentili. Pensa avere, Federico, una relazione con Veronica Gentili. Dici, ti ho mandato un tweet alle tre, ti svegli alle 5 e che facevi? Dormivi alle 3 che ti svegli alle 5. Federico, è così. Non ci pensate neanche, peggio di Freddy Krueger, guarda, lasciate stare. No, infatti, per carità. Però Federico, non è un po' tragica qua Veronica dire che... No, il concetto è giusto, io magari ridimensionerei un po'. Diciamo che oggi Renzi è caduto il mito dell'invulnerabilità di Renzi. Quindi il pugile ha preso il suo primo sganassone elettorale. Ma lui ha già individuato il nemico, no? Colpa soprattutto in Liguria, colpa di Civati, Rosi Bindi e Cofferati. Però questa è la sua linea difensiva che non corrisponde, che secondo me non corrisponde al vero. Cioè, un Presidente del Consiglio che si investe personalmente nella campagna elettorale, che ci mette la faccia, che va sui palchi, che promuove i candidati e che poi perde la Liguria e se la gioca sul filo in Campania e diciamoci vince l'Umbria ma con uno scarto risicato, di notte è stava uno perdendo. Che ha preso una bella botta, poi lui sicuramente adesso troverà il modo per riprendersi, ci sarà una resa dei conti in qualche modo, si metterà in pista, però intanto la botta se l'è. E sapete come ci sarà la ripresa di Renzi, il riscatto di Renzi, è già scritto sui giornali da ieri. Sapete dove va Veronica? Sai dove andrà venerdì? Dove andrà? Ospiti. Ad Amici, la finale di Amici. Pare che stia già corteggiando Maria De Filippi per dire per favore invitami ad Amici, venerdì c'è il gran finale. Perché tanto è il mazzo del momento, uno si mette la giacchetta di pelle, va ad Amici e tutti i problemi sono risolti. Io adesso proverò, invece di andare a Lourdes, uno proverà ad andare ad Amici, adesso proveremo anche questa. No, vabbè, vede adesso. Che non ha dormito Veronica, è nervosa, vedi già... Tu fai poco lo spiritoso, sei stato un pessimo insegnante di sostegno e non sapevo la domanda, c'è stato l'aiuto da casa. Non è neanche cominciato il corso di recupero, Veronica. Male, basta, finisci il programma, basta sbarre, torna a studiare. La verità è, Veronica, che vedi già il riscatto, il rientro in corsa di Renzi, che venerdì dopo Amici, vestito col giubbetto da Fonzi, avrà risolto tutti i problemi e ti innervosisce già la cosa. No, ma io credo che ci sarà un'assegnazione postuma della Liguria alla Paita, perché Renzi va ad Amici, quindi sabato la tolgono i soldi e la ridanno alla Paita. Ecco c'è un'altra foto, anzi due foto sulle quali chiederei un commento. La prima che circola su tutti i giornali è Renzi che con Orfini, mentre ottende i risultati, gioca alla PlayStation. Quello è stato uno dei momenti peggiori. No, ma perché, Federico, tu... Diciamo che questi risultati così a sorpresa neanche sulla PlayStation se li sarebbe visti. Beh, è un'operazione simpatia, è come dire, me l'aspettavo, non mi sorprende. Va bene così. Venerdì vado ad Amici. Governo, come diceva lui, però in realtà lo è. E venerdì vado ad Amici, gioco alla PlayStation, tutto a posto. Esatto, oppure possiamo dire che l'alternativa alle benzodiazepine o un po' di tranquillanti o un po' di PlayStation, perché sennò potrebbe essere brutta. Allora, intanto però riepiloghiamo, perché magari ci sono qualcuno che si è messo in collegamento adesso. Allora, sono 5-2 pare le regioni, 5 al centro-sinistra e 2, però c'è la campagna ancora in bilico, perché al 40,2% c'è De Luca e il 38,2% Caldoro. Ma voi che siete esperte, c'è la possibilità di recuperare un 2% a questo punto, no? Però tieni conto che se vince De Luca sarebbe una vittoria azzoppata, come sai, perché potrebbe cadere da un punto all'altro. Questo sì, è chiaro. No, secondo me, oltre ad essere una vittoria azzoppata, è un disastro vero, nel senso che credo che lui stamattina si è più amareggiato, ma sul serio, guardate, sembra faccio il gufo vero. No, vabbè, abbastanza, gufo Veronica. Il gufo volò, esatto, però in realtà vincere in Campania, secondo me, era ancora meno auspicabile che perdere in Liguria, perché adesso veramente sono cavoli. Nel momento in cui De Luca vince, si pone tutto il problema. Se decade, sceglieranno un vice presidente che va avanti, ma secondo me quella la risolvono, qualche inghippo, qualche magheggio lo fanno. Ma è chiaro che è più scomodo però, perché se avesse vinto la fight e De Luca avesse perso andava tutto molto liscio, in più lui si era realmente speso in prima persona. No, ma tra l'altro c'è da dire, in casa e ha fatto ha abbassato il capo alla fine dicendo vabbè, ok. C'è da dire tra l'altro, e di questo parleremo tra poco dopo il traffico, che c'è un centrodestra con la Lega come ci si immaginava, la Lega che fa un po' il pieno di voti, cioè arriva al 13%, e quindi Salvini dice per le mummie è arrivata la fine. A chi si riferiva per le mummie è arrivata la fine? Forse un sospetto ce l'ho, ma un sospetto un po' brutto, di resa dei conti all'interno del centrodestra. Poi c'è il Movimento 5 Stelle che non vince in nessuna regione, ma è il primo partito in tre regioni. Quello è il dato, secondo me, forse il dato più interessante in assoluto. Vabbè, perché tra poco ce lo dici, sempre alle 4 sei arrivata a questo tipo di convinzione. Ragazzi, datemi soddisfazione, fatemi dire no, ma infatti, lezione, cioè ha dormito due ore. Alle 4 eravamo le mummie, eravamo noi. le mummie. Infatti, quando Salvini dice che è finito il tempo delle mummie, intende il vostro. Forse sì. Salvini si riferiva a me e a Novella. E forse aveva ragione. Aveva ragione sicuramente. Tra poco, state con noi. Silvio Milan, manda il traffico in Italia, in Europa e nel mondo, debuffiato. 24 mattino. Tu eri un personaggetto col sorrisetto, un personaggetto. Alessandro, te e tu resisti più sott'acqua che a lavorare, hai capito? Milan, Alessandro, vieni a Salerno a cantare con la Carrà, il nuovo inno della Campania, De Luca. E intanto i tuoi auguri a noi juventini per la finale di Champions, te li puoi anche mettere... No, non posso dire nient'altro. Per quanto riguarda invece il tuo confidare in Messi per la finale, perché ti resta poco, parli proprio tu, che non siete poi messi così bene, vero? Ciao! Vabbè, battuta scontata. Comunque, caro ascoltatore, anche a te augurissimi per la partita di sabato. Qualcuno farà il triplete, mettiamola così quest'anno. Il triplete, Veronica Gentili, il triplete. In questa radio. No, il triplete è un parente del threesome. Attenzione, è un parente del threesome. E qui ci fermiamo. Poi spieghi tu a Federico che vuol dire, perché lui lo sa. Guarda, mi serve un corso di recupero, di sostegno. Guarda. Il threesome. Ognuno ha bisogno dei suoi. È così. Vabbè, ci ha sistemato così. Il triplete è il fratello del threesome. Io non ho nulla da aggiungere. Da casa anche su questo. No, non chiediamo aiuti da casa, che chi doveva capire ha capito e chi non doveva capire si informa. Non ha capito, è meglio così. Stamattina siate indulgenti. Allora, intanto c'è questo giallo, farei un passo indietro. Ma Berlusconi, secondo voi, davvero venerdì ha sbagliato ed è andato a Segrate alla festa del candidato di centrosinistra, è sceso e ha detto votate il candidato del centrosinistra, cioè ha detto il nome, e ha sbagliato perché Berlusconi... Non lo so, perché lui ha detto che non è vero. Berlusconi, sentite, dice che è una leggenda, sentite qua. È molto semplice, siamo passati davanti a un'orchestra che suonava, mi hanno detto che era una manifestazione di altri, ho avuto la curiosità di vedere che pubblico ci fosse e sono sceso, ho guardato, non ho parlato con nessuno, non ho detto a nessuno vota questo, vota quest'altro, ho visto che c'erano solo una cinquantina di persone e la mia curiosità è stata appagata e sono risalito in macchina. Vabbè, insomma, semplicemente era... non ho parlato con nessuno. Non ha parlato con nessuno, perché sono nate le leggende, è andato dal candidato sbagliato e ha detto votatelo, e però era... Ma è vero, non sono nate le leggende, ma è per questo che ci sta tanto simpatico ormai. No, ma lui dice sono sceso, ero incuriosito per un'orchestrina, mi ha incuriososito, sono sceso. Ma se c'è stato persino il tweet che ha fatto il candidato sindaco a Segrate, questo Paolo Micheli, che ha scritto dopo l'endorsement del Cavaliere, è fatta. Vabbè, è una delle tante leggende di Berlusconi. Sicuramente, guarda, quando c'era lui ci divertivamo un sacco. Ecco, esatto. Da qualsiasi punto di vista. Ma adesso arriva l'altro, l'incantatore di serpenti, come lo chiamo io, quello che quando parla io sto fermo così, come davanti al cobra, come anche lui ci fa divertire. Ma sai chi è? È lui, è De Luca, sentite De Luca come parla, è sulla Bindi. Questa presentazione, che include anche il mio nome, mi ha dato l'opportunità, e io di questo godo molto, di querelare per diffamazione la Bindi, l'ho sfidata e la sfido anche da questa emittente a un dibattito pubblico sulle questioni sollevate. Ma voi capite? O su tutte le questioni. Ma che voi capite che cosa potrebbe aspettarci per 5 anni, no? Quando... Cosa? Cioè, sfessati, pinocchi, vergogna, è tutto così. No. Ma poi in realtà, facendo un piccolo salto indietro, questo attacco alla Bindi è stata una roba, vabbè, vergognosa. Per carità, ma la dai, tempistica... però anche, ma anche questo sì, però, un po' sì, dai. Bindi, Sembrava, mi è sembrata un po' un'operazione tutta un po' farlocca, questa. Scusami, io siccome oggi rimaniamo sulla tematica threesome, ho scritto un pezzo sul fatto sul mio blog ieri, dicendo che fondamentalmente fino adesso la commissione antimafia aveva agito con la contraccezione postuma, cioè il preservativo dopo il sesso. Sì. Sostanzialmente prima facciamo le elezioni, poi quando sono chiuse le urne ci esprimiamo in termini assolutamente laici, perché non giuridici, dice, quando il virus ormai è passato, l'abbiamo contratto, diciamo, beh, guardate che il PD in questo Forza Italia. Non lo so, secondo me, non so, tu Federico che dici? Secondo me Veronica ha dei problemi stamattina ormonali, perché declina tutto in base sessuale. È stata sveglia fino alle 4, d'altronde, fino alle 4. Accumulato, non so. Non so se la Bindi sappia cos'è il triplete, Per esempio, l'aiuto da casa della Bindi, io sarei contenta. Se tu iniziassi a muoverti in queste direzioni, potremmo farlo, non lo so se si presta. Io però ho 3 minuti, tanto di regionali, poi parleremo tutto il giorno. Sì. Federico Novella alla sbarra, a proposito, si è alzata la sbarra di Medici. Si è alzata più velocemente del solito oggi. Poi. Vedi la vittoria di Totti subito. Sarà quello. Ma Totti subito. Uno scatto incredibile. Esatto. Scatto incredibile della sbarra di Mediaset dopo la vittoria di Totti. Allora, in questi 3 minuti vorrei chiedervi questo. Adesso ho Federico Novella, un uomo che piace alle donne, dobbiamo dirlo. Detto così sembra un bell'uomo e abbiamo una bellissima donna qui. Allora, c'è tutto questo problema del rettore della Sapienza, e che per me è incredibile, che è criticato, è partita anche la petizione delle donne, perché ha partecipato a Miss Università. A Miss Università è un concorso, è stata eletta una 19enne Miss della Sapienza, e adesso gli chiedono di dimettersi il rettore. Allora, Federico, tu... Ma è il solito femminismo all'italiana che si preoccupa di queste cose inutili, ma io penso che, insomma, le studentesse di quell'università probabilmente avranno ben altri problemi della testa, si preoccuperanno del fatto che il rettore lavori bene, che la didattica all'università funzioni bene, ma sicuramente non possiamo giudicare un rettore sulla base di un concorso di bellezza. Ma poi tra l'altro dice nessun crimine, ma ci sono le foto, dice, ma non sfilavano mica in costume, erano tutte in vestito da sera, una cosa goliardica, facevo loro domande culturali, perché ti sei iscritta alla Sapienza, cosa cioè non è che si è messo lì a guardare il culo alle ragazze dell'università a dire ma è questa un bel 8, no o oh no. Vabbè, ma tu Veronica, però Veronica Gentili si è zittita, senti, e quindi mi preoccupa. Sta covando rancore. No, già vi aspettate, forse è un'altra uscita improbabile. No, diciamo che è vero, insomma, tutto un po' esagerato, dimissioni neanche a parlarne. Ma, però proprio questa perpetua istigazione a delinquere, istigazione a delinquere, ragazzi. Ma come? Ma dai, ma istigazione a che? Ma Veronica? No, concorsi di bellezza dappertutto, anche il rettore che va a premiare Miss Università, per cui sottotesto se sei una brava universitaria bene, ma se sei una cozza un po' è un dispiacere, insomma. Però ha detto avrei partecipato anche a Mister Università, se me l'avessero chiesto. E con questo dovremmo risolvere la cosa. Federico, ci vuoi fare il Mister Università? Chi di noi non ha partecipato una volta a un concorso di bellezza, no Alessandro? Io no, perché avrei veramente avrei fatto chiudere per indegnità. Ne indico uno. No. Le personalità della radio mattutina con questo statico di bellezza. Vabbè, siamo a stravincono Veronica Gentili e Rossella Brescia. Basta. Punto. È a capo. E anche la nostra Paola Saluzzi. Tra le donne sarebbe bel contest. Vi devo salutare. Grazie Veronica Gentili. Ciao, Federico Novella, alla prossima. Buona giornata. Ciao. Voci dal giro. Buongiorno da Dario Ricci. L'abbraccio di Milano ha celebrato il trionfo al Giro d'Italia di Alberto Contador. E dopo 3 settimane di corsa, 3.486 km percorsi in 21 tappe, al termine di una battaglia estenuante e totale, il Giro d'Italia è andato ufficialmente in archivio. A scrivere questo nuovo capitolo di Storia Rosa è stato il 32enne spagnolo Alberto Contador, che ha vinto il secondo Giro d'Italia della carriera. Dopo 2 Tour, 3 Vuelta, adesso anche 2 Giri d'Italia, in attesa di andare tra un mese all'assalto del Tour de France per cercare di centrare un'eccezionale accoppiata che manca al ciclismo dal 1998, anno di Marco Pantani. In Francia troverà il nostro Nibali, il sudafricano Froome, il colombiano Quintana, che cercheranno in tutti i modi di rovinargli la festa, ma lui quei festeggiamenti si è già portato avanti ieri, vincendo il suo secondo Giro d'Italia. Per Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, cari ascoltatori, alle 7:19 minuti, eccoci a leggere i giornali. Oh, vi ricordo che oggi andremo in diretta fino alle 10, vi diremo tutto sulle elezioni regionali. Beh, intanto adesso leggeremo i giornali che non sono ovviamente per nulla aggiornati, per ovvi motivi di stampa. Quello che è stato sancito dalle regionali in pratica che il centrodestra si aggiudica 2 regioni, il centrosinistra 5 regioni. Questo almeno stando agli ultimi risultati, anche se la Campania è ancora in bilico. Allora, il centrosinistra sicuramente vince in Toscana con Rossi, nelle Marche con Ceriscioli, nell'Umbria con Catiuscia Marini, in Puglia con Emiliano. È in testa in Campania con Vincenzo De Luca attualmente al 40,3%, mentre Caldoro del centrodestra è al 38,2%. Dunque 2 punti percentuali di differenza, ma sono state scrutinate poco più di metà delle schede. Mentre il centrodestra vince abbastanza a sorpresa con Giovanni Toti in Liguria, dunque la Liguria va al centrodestra col 34,6% al momento nei confronti del 27,9% di Raffaella Paita. E il centrodestra con Luca Zaia della Lega stravince in Veneto col 50,7% di voti, mentre Alessandra Moretti del PD si ferma al 22,9%. Comunque questi i dati. Intanto leggiamo tradizionalmente la rassegna stampa con i giornali, anche guardando altre notizie, poi ci tufferemo dalle 8 con ospiti a parlare di questo per 2 ore. Intanto è lunedì 1 giugno e i titoli, il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì si concentra sulle regioni ma con un altro taglio. Le regioni costano 190 miliardi. Oh, e buon lunedì, mi viene da aggiungere. In questi casi l'importo medio del costo è 3.124 euro a testa, cioè pagate, cari cittadini, mediamente 3.124 euro l'anno a testa per mantenere le regioni. Siete felici? Siete contenti? Allora, gli altri titoli, come detto, tenete conto che i giornali sono stati stampati quando ancora c'erano regioni in bilico. Sorprese nelle regioni, il PD perde la Liguria, è il titolo d'apertura del Corriere della Sera. Per Repubblica, dal voto regionale uno stop per Renzi, PD sconfitto in Liguria, in testa in Campania. La Stampa, voto la Liguria verso il centrodestra. Il Messaggero, sorpresa regionali, voto in bilico. Per il giornale il titolo è Schiaffoni a Renzi. Avremo tra l'altro Alessandro Sallusti tra gli ospiti, è il direttore del giornale dalle 8:15. Renzi dimezzato tra 5 Stelle e Forza Lega, questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Mentre il giorno cade il PD, bene, Lega e Grillo, questo è il titolo di prima pagina. Vogliamo però partire anche da altre notizie, c'è anche altro che succede in Italia e nel mondo raccontato dai giornali. Voglio partire per me da quella che incredibilmente, incredibile, è la campagna che è partita contro il rettore della Sapienza, che io non conosco, non ho nulla da difendere, ma mi sembra una battaglia di bacchettone nei confronti del rettore della Sapienza, che ha partecipato a un concorso di Miss Università. Precisazione, non è che c'erano le miss che sfilavano in costume davanti al rettore, erano tutte, era una serata goliardica in cui le donne erano tutte vestite con vestiti da sera, le donne, le universitarie peraltro, e il rettore ha posto loro delle domande di cultura generale. Ecco, per questo è partita anche una petizione di donne che insegnano all'università, ieri ne dava conto Repubblica, dicendo: caro rettore, chiedi scusa a tutte le donne, ha infangato tutte le donne. Eccolo qui, per il giornale, la petizione radical chic che boccia il rettore Promis. E questo rettore, che risponde al nome di Eugenio Gaudio, deve fare ben due interviste per difendersi, una proprio a Repubblica. Non mi scuso, ho solo premiato una miss, nella mia università le donne comandano. Questo è il titolo dell'intervista di Viola Giannoli a pagina 25 di Repubblica. Non devo chiedere scusa di nulla. Han chiesto di partecipare a questa manifestazione studenti e studentesse e dopo tante insistenze ho ceduto. Questo concorso esiste da 20 anni e non solo a Roma. In America manifestazioni di questo genere sono all'ordine del giorno. E prima di partecipare ho chiesto al mio ufficio di verificare quale fosse la prassi dei rettori precedenti. Ho scoperto che tutti i miei predecessori, da D'Ascenzo a Frati, avevano tutti preso parte e che con me si sarebbero seduti in giuria come è stato un giudice della Corte d'Assise, un professore della Cattolica, giornalisti e numerose donne. Io in quella serata ho solo posto domande di carattere culturale alle ragazze. Perché ti sei iscritta all'università? Che vuoi fare da grande? Che pensi della cultura del nostro paese? Non è accaduto null'altro. Certo, ora il rettore dice: a saperlo non parteciperei, la mia coscienza è a posto perché conosco il clima nel quale si è svolto la serata, l'unico spirito con cui sono andato è stato quello di vicinanza dell'università ai suoi studenti. Non sapevo nemmeno che la location fosse una sala giochi, lo apprendo solo ora, sono locali che non frequento visto che io di solito la sera leggo un libro o suono il pianoforte. Poi il rettore dice in chiusura: guardi che nella mia università, la Sapienza, nella squadra di governo ho messo più donne giovani di tutti i tempi della Sapienza, ho scelto 4 prorettori donne nei ruoli cruciali, didattica e qualità degli studi, eccellenza scientifica, infrastrutture tecnologiche, pari opportunità e bilancio. Insomma, questo è il titolo, le donne da noi comandano. Viene anche intervistata Valeria Belvedere, che è la Miss Università, e dice e conferma: era un gioco, non c'è stata nessuna offesa, non ero per nulla seminuda, indossavo un tubino nero. Anche sulla Stampa si deve difendere il rettore, intervistato da Maria Corbi. Non ho fatto nulla di male. Certo, dice, se mia figlia mi chiedesse di partecipare a Miss Università, non gliel'avrei permesso. Ah, ma come, rettore? E peraltro, essendo Miss Università, la figlia è maggiorenne, quindi. E non le sembra una contraddizione, infatti chiede la stampa. Forse, ma io le ripeto, ho pensato solo alla dimensione goliardica dell'evento e al fatto che le studentesse che partecipavano tenevano alla mia presenza. Ho valutato l'alto profilo delle persone che sedevano in giuria. Insomma, siamo un paese in cui c'è anche la petizione contro il rettore della Sapienza perché ha partecipato a un concorso per Miss Università. Ale. Vabbè, lasciamo questa questione anche che domani non avrà neanche più spazio sui giornali. Veniamo a una tematica riguardante la scuola e, per la verità, gli asili pubblici, che è ben più importante. Succede a Bologna, dove da settembre si sta valutando, raccolta Repubblica con Ilaria Venturi a pagina 24, l'idea di tenere aperti gli asili pubblici anche nel weekend. Anche il sabato, anche la domenica. D'altronde, dicono, a Bologna ce lo chiedono i genitori. Il mondo è cambiato, come conferma il sindaco Merola. Ci sono genitori che devono lavorare nel weekend, dobbiamo adeguarci, e a settembre partiranno le consultazioni delle famiglie sui nuovi orari. I privati e gli asili privati hanno già esteso l'offerta, a cominciare dal nido aperto di notte, pensate. C'è ovviamente anche chi polemizza dicendo: non perdiamo di vista i diritti dei bambini di stare con i genitori, ma certo, ovviamente ci sono anche genitori che fanno i turni di notte, genitori che lavorano il sabato e la domenica. Diciamo che la tematica è molto interessante. A Bologna si sta studiando l'idea di tenere, come peraltro succede già in alcuni esperimenti in Italia, per esempio a Salerno gli asili nidi aperti il venerdì e il sabato dalle 19 alle 24. A Roma è stato inaugurato l'asilo Buonanotte Fiorellino, aperto 24 ore su 24. A Mantova, il nido aziendale dell'ospedale Poma di Mantova, resta da quest'anno aperto il sabato fino alle 20:30, quindi non è una novità. Ma a Bologna si vuole aprire tutto ciò anche agli asili pubblici a orari flessibili. Mentre, cari ascoltatori, la questione delle pensioni bloccate nell'indicizzazione della Consulta, cioè dalla legge Fornero, poi bocciata dalla Consulta, insomma la questione che sapete, ha visto uno sviluppo, perché c'è un signore di 82 anni, Rodolfo, ex dirigente delle Poste, che si è rivolto già al giudice, ha fatto il primo ricorso e l'ha vinto. Il pensionato che ha vinto il ricorso, cioè ha vinto il ricorso con un giudice che ha detto: dovete restituire a questo signore tutti i soldi che sono stati a lui sottratti per il blocco dell'indicizzazione, non una parte come prevede il decreto previsto dal governo. Questo Rodolfo, 81 anni, 82 per la verità, viene intervistato da Francesco Di Frischia dal Corriere della Sera, pagina 28, e dice: quando ho saputo che avevamo vinto il ricorso è stata una grande gioia. Come si fa a togliere 3.000 euro a un pensionato come se fossero bruscolini? Eccolo qui, la voce quasi rotta dall'emozione. Rodolfo, 82 anni, ex dirigente delle Poste, aiutato dall'avvocato Vincenzo Ferrò, che è suo parente, ha presentato ricorso a Napoli e lo ha vinto. Quanto prende lei di pensione? 2.000 euro. Secondo il decreto Renzi dovrà intascare un rimborso di 750 euro, ma me ne spettano 3.000, per la precisione 3.075. E il tribunale ha dato 40 giorni di tempo all'INPS per pagarle il rimborso completo. Che farà di questi soldi? Farò dei regali ai nipotini. E vabbè, comunque dice: questi soldi sono un diritto acquisito. Eccolo lì in Italia, appena tocchi tutti quei diritti acquisiti, tutti che acquisiscono diritti. Cari giovani, invece voi non avete acquisito un bel niente. Ma siamo al momento dell'articolo che ci fa più pensare della giornata, l'articolo che ci fa tenere le mani sul volante, soprattutto fa tenere le mani sul volante forse al marito di questa donna, che negli Stati Uniti, racconta Il Giorno, a pagina 27, ha gettato nei rifiuti un vecchio computer Apple 1. Ha visto questa cianfrusaglia, ha detto: ma che è sto schifo, ma facciamo finalmente pulizia di questo Apple 1. Per lei non era nient'altro che un vecchio computer da buttare, ma per altri quell'oggetto è un tesoro. E un centro di recupero rifiuti elettronici della Silicon Valley sta cercando una donna che si è liberata, inopinatamente ovviamente, di un vecchio computer della Apple valutato $200,000. Pensate, il marito, noi teniamo le mani sul volante, ma lui mani sulla tastiera, caro amico, mani sulla tastiera. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il molleggiato dell'informazione. Dai, dai, il molleggiato, allora dovrei urlare. No, vabbè, vabbè, lasciamo stare Adriano Celentano. Allora, tuffiamoci a questo punto dalla lettura dei giornali, che è come sempre un po' parziale, ma ci sono già i primi commenti. E dai risultati che vediamo in diretta sulla questione delle regionali, ripeto, per chi si fosse svegliato ora, debosciato, siamo in diretta fino alle 10. In 5 regioni ha vinto il centrosinistra. Se diamo per vinta la Campania a De Luca, perché in realtà lo spoglio è ancora in corso. 4.145 sezioni scrutinate su 5.835, in questo momento De Luca è in vantaggio di 2 punti percentuali, 40,3 a 38,3 nei confronti di Caldoro. Per il resto il centrodestra vince con Toti in Liguria e Zaia in Veneto, e invece Puglia, Toscana, Marche e Umbria vanno al centro-sinistra. Intanto però vi segnalo prima di tutto il Sole 24 Ore, questa cifra che è il titolo di prima pagina. Quanto costano le regioni? Spesso ne abbiamo parlato, abbiamo fatto anche puntate. Le regioni costano 190 miliardi. Questo è il titolo di prima pagina. L'importo medio è di 3.124 euro a testa. Gianni Trovati spiega tutti i dettagli, ecco la mappa di chi costa di più. A Molise e Lazio c'è il record degli importi in relazione alla popolazione. La Lombardia invece si conferma la regione più leggera da questo punto di vista. Comunque questa cifra, 190 miliardi, è davvero una cifra impressionante. La spesa, per la verità, è un pochino minore, 189 miliardi e 889 milioni di euro. Comunque la spesa pro capite, forse quella che si capisce di più, in media costano a tutti noi le regioni, a ognuno di noi, 3.124 euro l'anno. Evviva! Tutti i dettagli li trovate regione per regione, quella che costa di più e quella che costa di meno, sempre per spesa pro capite. Pensate, la Lombardia costa ai lombardi 2.239 euro pro capite, mentre per esempio Bolzano 9.656 euro, così come la Val d'Aosta hanno lo statuto speciale, 9.837 euro. Però queste regioni a statuto speciale, spesso si è detto, hanno anche più compiti da assolvere nei confronti dei cittadini. La Sicilia costa 4.042 euro a ogni cittadino. E poi vabbè, man mano, tanto abbiamo lo speciale fino alle 10. Se volete mi scrivete al 349-238-6666, io vi dico la vostra regione quanto vi costa. Scrivetemi, dai, ditemi da che regione siete e io vi dico quanto vi costa pro capite, dati del Sole 24 Ore, la vostra regione. Ma veniamo ai commenti. Allora, il commento di tutti i giornali unanime è che Renzi ha avuto una battuta d'arresto. Perché? Hanno perso la Liguria e soprattutto in Veneto la Moretti è stata asfaltata 22,9% nei confronti del 50,6% di Zaia. Laddove ha vinto il PD, come con Emiliano o in Puglia o con Ceriscioli nelle Marche, non è proprio un PD renziano. E poi ha vinto invece con Rossi in Toscana, ma nella notte stava perdendo l'Umbria, si era sparsa questa notizia. Poi ha vinto con Catiuscia Marini, ma avesse perso anche l'Umbria sarebbe stata, non dico una debacle, ma il 4-3, come racconta Repubblica con Francesco Bei a pagina 2, data per persa a un certo punto l'Umbria, sarebbe stato il famigerato 4-3, risultato peggiore evocato dal Premier ma solo come spauracchio. È finita invece 5-2, ma ecco i primi commenti. Renzi dice ai suoi: purtroppo in Liguria si è verificato quel che temevo, la sinistra masochista è riuscita a far vincere gli avversari. Io comunque sono soddisfatto del risultato finale. Questo è il primo commento di Renzi, non ufficiale. Renzi, che ha atteso i risultati come si può vedere da una foto pubblicata su tutti i giornali, giocando alla PlayStation con il presidente del Partito Democratico Orfini. In realtà sul Corriere della Sera si racconta con Maria Teresa Meli di un Renzi ben più arrabbiato, altro che soddisfatto. Pagina 5. Cofferati ci ha divisi, ha lavorato per i 5 Stelle. Dopo le elezioni, ha spiegato Renzi ai collaboratori, bisognerà ragionare tutti sul modo in cui si sta insieme nel PD e sulla lealtà e vincoli d'appartenenza a una stessa comunità politica. C'è il rispetto delle regole e il rispetto tra di noi che siamo sulla stessa barca. Basta le correnti organizzate. Pensando di colpire me, erano pronti a colpire il proprio partito. Questo è tafazzismo purissimo. Hanno voluto perdere la Liguria. Come lo spiegherebbero ai nostri militanti e ai volontari delle feste dell'unità? Ma anche se vincessimo in altre regioni, adesso siamo in bilico, come in Campania, alla fine, loro che potrebbero dire, avrebbero preferito perdere? Ti famavamo per un altro, abbiamo addirittura delegittimato l'antimafia pur di far perdere Renzi? Ecco, queste sono le considerazioni che a caldo Renzi ha fatto con i suoi collaboratori. D'altra parte c'è un Berlusconi galvanizzato. La sensazione è che quando scendo io in campo ancora sposto voti. E un Berlusconi che ha vinto con Toti in Liguria, e questo è il massimo secondo lui che si poteva ottenere. C'è anche interessante l'analisi di Francesco Verderami a pagina 3 del Corriere della Sera. Nei partiti è la resa dei conti, ma nessuno vuole le urne anticipate, quindi ci saranno grandi scossoni. Salvini che dice ora le mummie sono finite, non so a chi si riferisse, forse si riferiva anche allo stesso Berlusconi per la conquista del centrodestra, della leadership nel centrodestra. C'è chi nel PD appunto dice ora dobbiamo fare una resa dei conti secondo Renzi. Guardate anche il titolo del Secolo XIX, Colpa di Civati e Bindi, il Secolo XIX che analizza la sconfitta del centro-sinistra in Liguria, il flop ligure per Renzi è colpa di Civati e Bindi. E dall'altra parte c'è invece il Movimento 5 Stelle, che non ha conquistato regioni ma è il primo partito, poi bisognerà attendere i risultati finali, ma fino a questo momento è il primo partito sia in Campania, sia in Liguria, sia in Puglia, quindi in tre regioni importanti. Alice Salvatore, che era la candidata del Movimento 5 Stelle in Liguria, intervistata dal Messaggero a pagina 4, dice la gente non ne può più dei partiti. Ed ecco, poi ripropone il solito tema del Movimento 5 Stelle. Non faremo alleanze con nessuno, c'è bisogno di rinnovamento rispetto ai vecchi partiti. Parlo da cittadina, dalla Liguria gente continua a scappare perché la politica ha fatto un disastro. Farete alleanze? Noi pensiamo di vincere con una larga maggioranza, ha detto quando i risultati però non erano ancora chiari. E siamo sempre stati chiari per le proposte in campo e quel che crediamo. Non facciamo alleanze con nessuno, cercheremo voti sulle singole questioni. Così la candidata del Movimento 5 Stelle in Liguria. Esulta anche la Lega a cantare vittoria ai Salvini. Vabbè, hanno vinto nettamente in Veneto, ma hanno raggiunto circa il 13%, superando come primo partito del centrodestra Forza Italia. Ed ecco allora Salvini intervistato da Repubblica, Oriana Liso a pagina 13. Siamo noi l'alternativa di centrodestra a Renzi, dice Salvini. Penso che si andrà presto alle elezioni. La Lega c'è e accetta la scommessa di prendere un voto in più e governare. Parla poi della vittoria in Veneto e a questo proposito dice: è pentito di aver cacciato Flavio Tosi? Assolutamente no, non ho mai avuto paura, ho sempre saputo di aver fatto la cosa giusta. E ora possibilità di riconciliazione con Tosi? Non scherziamo, risponde Salvini. Vabbè. Risultato per risultato, poi li analizzeremo tutti. Segnalo anche invece Michele Emiliano, che ha vinto in Puglia, è al 47,2%, ha staccato nettamente col 18,3% Schittulli, che è il candidato di Fitto, diciamo. Emiliano, intervistato da Goffredo Buccini, fa qualche dichiarazione a pagina 17 del Corriere, una dedicata a Renzi, non proprio di vicinanza. Renzi non lo sento da settimane, ma d'altronde lui il Sud non lo capisce granché. È un posto per super uomini e super donne e devi formarti se vuoi restare integro. Così Emiliano, che in qualche modo dunque prende anche un po' le distanze dal Presidente del Consiglio. Comunque, a proposito di superuomini, noi abbiamo qui Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Sì, buongiorno Alessandro, buongiorno. Volevo dirti, oggi è una giornata particolare perché è il primo di giugno, non so se l'hai data questa notizia. È il primo di giugno, sì. Me lo confermi che è il primo di giugno? Te lo confermo, è il compleanno di mia moglie. Allora, quindi. Tra parentesi, detto tra me e te, finalmente è finito il campionato. Oh. E questo, diciamo che si è concluso peggio per te, ma non benissimo neanche per me, e quindi è il primo di giugno, siamo con tutti contenti, anche perché al 16 di giugno ci sarà quello che abbiamo chiamato oggi sul Sole 24 Ore il super martedì delle imposte. Esatto. E ci servono circa 45 miliardi, anzi qualcosina di più a dire la verità. Tu sei preparato, stai mettendo da parte i tuoi due urini, bah. E quattro, non sei preparato, ecco, preparati, c'è ovviamente tutti gli acconti, IRPEF, ICI, IMU, TASI, insomma tutto quello, scusa, ho citato ancora l'ICI perché sono affezionato ancora alle vecchie imposte, perché tra l'altro forse costavano anche meno, ma questo non voglio fare polemica. Ti voglio anche parlare oggi, c'è Angelino, sai se ci sta ascoltando? No, Angelino, beh penso di sì, non lo so, lo salutiamo comunque, un grande abbraccio. Devo parlare dei cookies. Ah, i cookies sono i biscotti, letteralmente sono quelle segnali che i siti ci mandano per carpire delle nostre abitudini, sì, di consumo su internet. Ecco, da domani devono essere dichiarati, altrimenti c'è la multa. Ti racconta tutto Antonello Cherchi oggi sul Sole 24 Ore. Se tu leggi oggi Sole 24 Ore trovi anche questa notizia sui cookies. E poi oggi, pur non essendo martedì, c'è il condominio. Bravo, parliamo di regolamenti condominiali. E come mai? Ne parliamo sull'esperto risponde, dove ti spieghiamo che cosa può fare e non può fare il regolamento condominiale. Oh, tra l'altro, sull'esperto risponde parliamo anche della queer. Tu sai cos'è la queer? No, non te lo ricordi. Angelino e mio. No, la queer non è un termine, è una sigla. Vabbè, però. La quota di integrazione della retribuzione sarebbe il TFR in busta. Però ti spieghiamo quale può essere la convenienza, in realtà pochina, lo spieghiamo passo passo, appunto sulle pagine oggi dell'esperto risponde. E poi naturalmente c'è lavoro e carriere, come sempre, con delle opportunità di lavoro, questa volta l'articolo principale sulle professioni del cibo, del food. Ottimo. E naturalmente, come sempre, c'è anche l'ebook in regalo. E perché te ne parlo dell'ebook? Perché vorrei salutare i colleghi del sito del sole24.com che hanno dato in diretta tutta la notte i risultati del voto, e quindi sono ti fanno sembrare questa mattina davvero, caro mio, un debosciato. Esatto. Tutto ciò premesso, caro Alessandro, finalmente il campionato, come ho detto, è finito, tiriamo un sospiro di sollievo, aspettiamo sabato. Io non dico nulla, tu stai gufando da tempo. Io sì, non mi interessa. Va bene, disinteressiamoci della questione e a tutti traffico! Alessandro Milan, il Mario Giordano dell'informazione, ma io non lo so, dai, ma insomma, dai! non male, intanto, devo dire che ho chiesto, scrivetemi da che regione ci state seguendo, io vi dico in base ai dati del Sole 24 Ore quanto vi costa pro capite, non l'avessi mai fatto, eccoci qua, però ogni promessa è debita e dunque rispondo a tutti. Toscana, ci chiede un ascoltatore della Toscana, 2.913 euro pro capite a ognuno di voi. Campania, 2.560 euro. Abruzzo, rispondo a Gianluca, a tutti gli abruzzesi, e qui si sale, 3.306 euro. Poi, Toscana, ci chiede Andrea, e l'ho appena detto, comunque Andrea con cinque bimbi, complimenti Andrea, in bocca al lupo a tutti quanti. In Friuli ci chiedono in molti, Massimiliano da Udine, Graziana da Pordenone, eccolo qua il Friuli Venezia Giulia, 5.172 euro pro capite, questo vi costa, la regione. In Veneto invece, il Veneto 3.079, la regione Liguria ci chiedono anche 3.369, e poi basta. Ah, l'Emilia Romagna, abita a Bologna, ci chiedono anche il Lazio, tutte ce le chiedono, poi compratelo lo stesso, solo 24 ore. Allora, l'Emilia Romagna, dov'è l'Emilia Romagna? Eccola qua, 2.665 euro di spesa pro capite della regione, e il Lazio, 3.796 euro a cranio pagate per la regione, costo totale 190 miliardi. Allora, intanto, a proposito di Lazio, a proposito di Roma, continuano le ricerche dei Rom che erano alla guida dell'auto che a Bocce ha travolto, ucciso la filippina Corazon Perez a bordo e ha ferito gravemente altre persone. Ora il Messaggero racconta degli sviluppi, e cioè, pagina 15, forse... perché si sono dati alla fuga così appena hanno visto la polizia? Non tanto e non solo perché probabilmente alla guida c'era un uomo senza patente, un sedicenne o diciassettenne, ma perché ora si sta profilando l'ipotesi che stessero trasportando armi e droga in quella macchina. Armi e droga per la camorra. Sono ancora introvabili due nomadi che hanno travolto e ucciso la 44enne a Roma. Luca Lippera e Marco De Risi raccontano che armi e droga nella macchina dei Rom potrebbero essere fuggiti per questo motivo. Avevano un carico di grande valore e quindi si continuano le perquisizioni nei campi. Anche il Corriere della Sera racconta che per quel che riguarda l'auto pirata, ora si cerca un boss, addirittura un boss della camorra, perché la macchina era intestata a un uomo che risulta proprietario di altre 67 vetture. Pietro La Corte, tu hai una macchina? Intestata una, mi guarda la regia, fa una, ecco, pensa che questo signore era intestatario di 67 più 1, quindi 68 macchine. Comunque Rinaldo Frignani racconta, pagina 26, che ci si sta muovendo proprio nell'ambito dell'analisi dei rapporti tra questi Rom, questa famiglia di Rom e la camorra, perché c'è qualcosa di incredibile nella fuga a 180 all'ora per un controllo della polizia. Come c'è abbastanza di incredibile nella storia che vede protagonista suo malgrado il comandante dei vigili urbani di Laigueglia. Io effettivamente l'ho letta nel weekend questa notizia, e mi ha molto colpito. Perché il comandante dei vigili urbani di Laigueglia è finito in un documento che gira sul web, su internet, firmato dall'ISIS, dunque dallo Stato Islamico, con i possibili obiettivi da colpire in Italia? Marisa Valentina Ruaro, shock a Laigueglia, minacce jihadiste al capo dei vigili. La vicenda sembra abbastanza incredibile. C'è un documento sul web nel quale si individuano come potenziali obiettivi da colpire in Italia il comandante generale dei carabinieri Leonardo Gallitelli, insomma qui si può capire il ruolo istituzionale molto importante, l'attuale questore di Firenze Raffaele Micillo, segue una sfilata di nomi meno noti, e tra questi anche il comandante dei vigili urbani di Laigueglia, in provincia di Savona, Marisa Valentina Ruaro. Ne racconta il Sole 20, il Secolo XIX, pagina 9, dicendo anche forse delle incredulità in paese, anche ora di mettere al vaglio l'attendibilità di questo tipo di documento. Marco Menduni racconta nel mirino 10 appartenenti alle forze dell'ordine, ma anche appunto la comandante dei vigili urbani di Laigueglia. Notizia dalla scuola, un bel reportage sulla scuola lo fa il Giornale, e va a analizzare e a studiare che cosa? Le 1400 scuoline, così vengono definite, le scuoline con 9 alunni per classe. Sono le scuole in montagna, sono le scuole sulle isole, sono scuole che vogliono sopravvivere a tutti i costi, ma negli ultimi 4 anni sono state tagliate del 15%, scuole di periferia se volete, l'Italia di periferia. C'è anche un bel reportage di Emanuela Fontana da Alicudi, Isola, in provincia di Messina, dunque siamo in Sicilia, dove pensate c'è una scuola con due alunne. Ovviamente non c'è la campanella, le lezioni cominciano quando gli insegnanti riescono a sbarcare con l'aliscafo, magari puntuali, magari non tutti i giorni, e le famiglie lottano per salvare le loro elementari. Insegnante con due alunne alla scuola primaria di Alicudi, e c'è un bel reportage, ve lo ripeto, sul Giornale a pagina 18 e 19. Vabbè, c'è Jennifer Lopez seminuda sul Giorno e su vari giornali, ha dato scandalo in Marocco. Una TV ha trasmesso il concerto di Jennifer Lopez e qualcuno si è lamentato. Il governo ha detto, e anche il partito del Premier, lo show era troppo sexy e quindi non si poteva mostrare in TV. Va bene, ma la quarta costa non è questa. La carta costa è dedicata a una pagina su Repubblica, Enrico Franceschini, che racconta Dio è anche donna, la battaglia e la sfida delle anglicane per riscrivere le preghiere anche così. Madre nostra che sei nei cieli, sia santificato. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Che te bozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Speciale elezioni. Ed eccoci qua, cari ascoltatori, sono le 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo in diretta e saremo in diretta fino alle 10, oggi fino alle 10, per raccontarvi tutto delle elezioni regionali. Qualcosa lo avrete già saputo se vi siete svegliati adesso, che si può dire? Beh, faremo tante considerazioni anche con voi, eh? Il numero verde per intervenire 800 24 00 24, già attivo se volete chiamarci. Allora, 5 regioni vanno al centro-sinistra, sempre che in Campania, dove lo spoglio ancora in corso, Vincenzo De Luca, in questo momento in vantaggio sul candidato del centro-destra Caldoro, si confermi. In questo momento Vincenzo De Luca ha un paio di punti percentuali in più rispetto a Caldoro. Precisamente De Luca al 40,83 e Caldoro al 38,22. Comunque 5 regioni contando la Campania vanno al centro-sinistra, le altre 4 oltre la Campania sono la Puglia, la Toscana, le Marche e l'Umbria. Il centro-sinistra però perde la Liguria. In Liguria vince, un po' a sorpresa, Giovanni Toti, a sorpresa perché è tradizionalmente regione rossa, invece va al centro-destra con Giovanni Toti. Il centro-destra trionfa anche in Veneto, dico trionfa perché la vittoria di Luca Zaia della Lega al 50,44% rispetto al 22,8% di Alessandra Moretti, davvero un distacco abissale. In 3 regioni il primo partito invece è un altro in termini di voti assoluti, cioè in Campania, in Liguria e in Puglia il primo partito è il Movimento 5 Stelle, che però non conquista nessuna regione. Tante considerazioni si possono fare, cominciamo a farle con Claudio Velardi, buongiorno e bentrovato. Buongiorno. E con Alessandro Sallusti, che è il direttore del Giornale, eccoci direttore. Buongiorno. Che oggi titola così, cosa avete titolato? Schiaffoni a Renzi, addirittura, eccolo qua, schiaffoni a Renzi. Renzi. Perché Sallusti addirittura per la Liguria? I dati, no, non è questione, secondo me non è una questione numerica di quante regioni e chi, perché la vera novità di questa tornata elettorale è che il centrodestra è tornato in corsa, in due ha vinto, in altre due poteva vincere, addirittura in una non si sa ancora se ha vinto o no. Laddove si è presentato diviso, tipo Puglia, ovviamente non c'era speranza. Per cui il primo dato politico è che il centrodestra è tornato, resta una coalizione competitiva. Il secondo dato politico è all'interno di quel dato politico c'è un sottodato che è un centrodestra a trazione leghista, non solo in Veneto ma in Puglia la Lega è decisiva, così come è stata decisiva per il bel risultato in Umbria. E addirittura in Toscana il 20% la Lega è una cosa impressionante. Il secondo dato politico è che la marcia trionfale di Renzi è finita perché le sue percentuali sono ben lontane dal 40% delle europee, addirittura in Toscana ha perso il 10%, in Puglia ha perso addirittura, anche per via della spaccatura, ma comunque ha perso consensi, insomma un po' ovunque. Schiaffoni, questo è il motivo degli schiaffoni nel PD titolo. È in calo. Sì, c'è da dire che il PD ha già, cioè Renzi pare abbia già individuato, per esempio per la Liguria, i motivi, e cioè Cofferati, Civati, cioè quella sinistra che ha diviso e ha spaccato il partito. Beh, ma se mi permette il Premier, allora si può dire che in Campania è perché De Mita ha fatto il salto della quaglia e addirittura anche un altro personaggio molto discusso all'interno della sinistra ha fatto il salto della quaglia, cioè ogni regione ha le sue particolarità, ma la marcia trionfale di Renzi, il ventennio renzista che si stava, secondo alcuni, aprendo, direi che ha subito è già finito. Una battuta d'arresto molto, molto. Una battuta d'arresto. Qualcuno ha fatto notare, e lo chiede a Claudio Velardi, che si intende moltissimo di comunicazione, che Renzi ha già pronto il rilancio. E sapete come ha pronto il rilancio? Venerdì vuole a tutti i costi andare alla finale di Amici di Maria De Filippi in TV come ospite. Ora, Velardi, no, la buttiamo, perché sennò il commento è sempre noioso. La battuta d'arresto è risolta, diciamo. La battuta d'arresto è risolta. Se va ad Amici si rilancia così. Si rilancia così. No, però è una battuta d'arresto per Renzi questa, Velardi? È una, diciamo di sì, non per le ragioni, mi permetto di dire, che in queste ore si sostengono. Cioè le regionali le hanno vinte o le hanno perse le persone, perché gli elettori sono intelligenti, capiscono in ogni singola regione qual è la persona giusta da votare e lo vanno a fare in maniera non ideologica. In Liguria, per dirne una, e per contrastare quello che ha detto a botta calda Renzi, il centrosinistra non ha perso per quello, per il pastore, il pastorino, che infatti ha preso pochi voti. E perché ha perso? Perché la gente si è scocciata di un sistema di potere che dura da decenni. Cioè il sistema Burlando, di cui la Paita ha preso il testimone. Perfetto, cioè. La Paita, una debole longa manus di Burlando. In Umbria non è successo, ma succederà la prossima volta, se proseguiranno con questa scialba, con una continuità scialba alla Marini. Sì. È chiaro? Il punto di fondo è questo, noi non dobbiamo più leggere il voto, i voti in maniera ideologica, come lenti dell'ideologia. E in tutte le regioni è andata così. Ha vinto in Puglia lo strabordante populista Emiliano, che non è un uomo di partito in senso stretto. De Luca, che si avvia a vincere in Campania, vi comunico, signori, che non è candidato di partito dal 1993. Sì, non è un ma infatti nel 2006 si candidò contro il suo però, partito, cioè Velardi, ma in questo che si dice Renzi ha subito una battuta d'arresto, cioè laddove ha vinto non sono renziani in senso stretto. De Luca non è renziano, bravo, Emiliano non è renziano. È che Renzi paga la sua stupidità. Renzi non ha ancora costruito, e non so se lo farà, se la costruirà, una nuova classe dirigente. Questo è tutto. Il problema è solo di persone. Mi permetti solo però di correggere una piccola, piccolissima imperfezione, mai in Milan è perfetto come è noto, però un'imperfezione c'è in quello che ha detto prima. Che ha detto? Il Movimento 5 Stelle è secondo partito in Liguria e nelle Marche, è terzo partito nelle altre regioni e quarto partito in Veneto. È cambiato la colossale tutto. Bufala. Ma perché? Tutti stanno sospetti, ci sono i dati, il Ministero degli Interni, i dati. La colossale bufala che circola da ieri sera, in particolare da quella parodia, diciamo, di TG, che è quello di Mentana, che ieri ha dato uno spettacolo veramente. addirittura qua sistemiamo tutti. Ma vai in rete, diciamo, è sfottuto da tutto il mondo. E questa qua, cioè, tutti tendono a mettere in rilievo il successo del Movimento 5 Stelle, che non c'è, perché i dati sono quelli che ti ho detto, poi li verificherai. Sì. Mentre invece il dato politico, qui ha ragione Sallusti, è che è il sistema lentamente si va riassestando, sì, con una leadership che da una parte però, quella diretta, però, e con un centrodestra che naturalmente però va rifatto, però, però c'è un giallo, cioè... se pensa che lo fa attorno a Salvini, no, ho capito, a Salvini, no, va bene, ma tra poco ne parleremo di questo, però adesso c'è un giallo, Velardi, che ci ha dato Sallusti, sì. Tu che elementi hai? Perché io ho qua il Corriere della Sera, il Corriere.it, il Movimento 5 Stelle è primo partito in Liguria, Campania e Puglia, ma non è vero niente, è una scelta, Corriere della Sera. Beh, entra nelle elezioni regionali. E adesso entreremo. In questo momento te li leggo in diretta. Alice Salvatore in Liguria, c'è cioè il 22, il Partito Democratico il 25. Nel Veneto il coso il 5 Stelle c'ha cioè il 10, cioè il 4. Al Veneto, il Veneto infatti no, il Veneto il non era, era Liguria, Campania e Puglia. In Toscana ha il 15. No, questi c'ha il 14. Queste però no, queste non le ho citate. In Campania c'ha il 17 e 8 contro Forza Italia al 18 e il PD al 20. In Puglia c'ha il no, sta dietro, sta proprio dietro, sta dietro, a capo, sta dietro, sta dietro, sta dietro. Vabbè, adesso allora li vediamo e verifichiamo dal dati del Viminale precisi. No, ma non è un caso, perché capito, perché siccome i media, i giornali, eccetera, che non inventano, non sanno manco contare, no, ma non sanno manco votare. Devono inventare la forza antisistema, avanza la protesta, ci hanno rotto il le scatole, tu non dici male parole, sulla storia dell'astensionismo, le regioni, la gente non va a votare per le regioni dal 2005, ho capito, però alle scorse, 72, alle scorse regioni, 74, no, oggi 10 punti in meno, infatti, e vabbè, è normale, ma nel frattempo a Matera, dico a Matera, sì, va a votare il 74% della gente per le comunali. Eh beh, certo, la gente perché... va a votare per le cose che interessano. Eh beh, ma ho capito, le regioni dovrebbero interessare oggi il Sole 24 Ore, poi ne parliamo. Sono che vanno sciolte. No, e appunto, ne parliamo oggi il Sole 24 Ore, poi mette quanto costano le regioni, 190 miliardi l'anno. Anzi, vi continuo a invitare, scriveteci dalle regioni e vi dico quanto costa pro capite la vostra regione. Dati del Sole 24 Ore, in media costa 2.300 spesa pro capite 3.124 euro ogni regione, a noi a cranio ci costa questo ogni anno. Sallusti, però qua Velardi dice che certo il centrodestra non si può mettere insieme attorno a Salvini, qui però c'è da dire il centrodestra unito è la stessa cosa che ha detto Toti, no? Il centrodestra unito vince, se è unito vince, se è diviso perde, ma c'è la possibilità ancora di unirsi intorno a chi? A Berlusconi non mi sembra, no? Ma permettimi un'osservazione su quello, condivido quella di Velardi, aggiungo due fattori, uno che il Movimento 5 Stelle è di fatto l'unico partito che si presenta non con una coalizione da solo. E gli altri partiti, soprattutto i principali, hanno le liste dei candidati a presidente che in un ragionamento politico andrebbero aggiunte a quelle del partito. La seconda cosa è che l'astensionismo così alto non è a disposizione del 5 Stelle, perché escludo che ci sia un astensionismo nel 5 Stelle, è un voto di protesta, è un voto radicale, per cui è l'unico partito che può aver fatto il pieno del suo potenziale. Detto questo, sul centrodestra gli dico una cosa, da quando è nato non per nulla si chiamava Polo delle Libertà e poi Casa delle Libertà, il centrodestra è sempre stato una coalizione, quindi non è una novità che, che bisogna mettere assieme dei pezzi, è sempre stato così. La seconda osservazione è che questi pezzi si mettono assieme se c'è un federatore. Ora, io non lo so se Salvini vuole fare la fine di Grillo, cioè prendere tanti voti ma essere ininfluente poi alla fine per la politica e la gestione delle regioni e del paese, o se Salvini si mette nei panni del federatore. Se fa questa scelta ovviamente deve tener conto anche dei moderati di questa coalizione. Altrimenti non è indispensabile, secondo me, che Salvini faccia il federatore. Laddove si è vinto è perché Berlusconi, che ha fatto il federatore in Liguria, ha fatto il federatore in Veneto, ha fatto il federatore in Umbria. Quindi bisogna cambiare anche un po' la prospettiva. L'importante è che ci sia qualcuno che garantisca tutti. Sì. Il problema però è che un sorpasso... Al momento l'unico che può farlo è Salvini. L'unico che ha questa... No. L'unico che può fare è Berlusconi, perché ha questa mentalità dal primo giorno in cui è sceso in campo, è Silvio Berlusconi. Sì, però Berlusconi... E non è detto che sia lui il candidato premier, che non può esserlo tra l'altro, o che sia lui l'anello forte della coalizione, è quello che garantisce tutti. E quindi, su questo sono d'accordo, cioè garantisce anche alcuni moderati. La Lega ha sicuramente delle posizioni estreme su alcuni argomenti che non mette d'accordo tutti i moderati che ci sono nel paese. Però Sallusti, ci sono, questo Salvini non può essere il federatore, questo che abbiamo conosciuto in questa però in tutte le regioni il può problema che cambi è chiaro, tonica, spumi. Il problema politico è questo. Per esempio, sono sui dati a questo punto del Viminale, come dice Velardi, anche in Liguria la Lega al 20% e Forza certo. Italia al 12%, cioè c'è uno spostamento di asse di votanti nettamente a favore della Lega nel centro-est. Ma guardi, Berlusconi, che adesso sembra, come dire, scontato che lo dica io, in tempi non sospetti, parliamo di mesi fa, disse, quando Salvini cominciò la sua ascesa, disse: beh, ma io potrei fare l'allenatore e Salvini il centravanti. Ecco, un concetto così è proponibile anche oggi, perché è l'allenatore che tiene assieme la squadra. Non è che l'allenatore per forza è il giocatore migliore o quello che è quello che ha il carisma di tenere assieme la squadra. Quello che può fare il lavoro da dietro le quinte, no? Il grande ispiratore dei moderati, Berlusconi. Senza un federatore il centrodestra non solo non potrà esistere, ma non sarebbe neanche potuto esistere. Cioè, lo schema Berlusconi, grande manovratore, diciamo così, in maniera positiva, ovviamente, e Salvini quello che prende i voti. Ripartiamo da qui tra un attimo, dopo la pubblicità ci raggiungerà anche Alessandro Morelli, che è il direttore di Radio Padania, dove immagino esultino per la vittoria in Veneto, ma anche per i grandi numeri. Tra poco. Allora, siamo qui, sono le 8:39 minuti, andremo in diretta fino alle 10 oggi. Con noi ci sono Claudio Velardi, il direttore del giornale Alessandro Sallusti, e poi saluto il direttore di Radio Padania, Alessandro Morelli. Buongiorno, ciao direttore. Buongiorno agli ascoltatori, ciao. Allora, sentiamo proprio Salvini, che credo da voi ieri, col solito linguaggio trionfale, ha commentato tutte le polemiche, il Veneto, Salvini butta fuori Tosi, qua si perde, vincerà Moretti, qua mi sembra che sia finita 7-0, palla al centro. Matteo, anche alla faccia dei traditori, dei caregari, adesso ce la diciamo, dei poltronari che hanno scelto la poltrona al posto dell'ideale, e la loro poltrona se le infilano là dove dico io. Vabbè, Morelli, il solito Salvini, contento, eccetera. Però vi aspettavate un successo di questo genere? Beh, in Veneto si aspettava la vittoria, forse non con questo distacco. Il lavoro fatto sul territorio e anche l'aria che si respirava durante questa campagna elettorale, diciamo che davano qualche sensazione rispetto a un risultato che sarebbe stato un risultato storico, effettivamente poi ci è avvenuto, soprattutto anche in Liguria. Peccato per l'Umbria, dove sono stato nelle ultime settimane proprio con Matteo Salvini, e anche lì c'era un'aria assolutamente positiva. Vabbè, sarà per la prossima occasione. Però Morelli, qui Sallusti ci ha detto che l'unico che può tenere ancora insieme come federatore il centrodestra, cioè raggruppare tutti i moderati italiani, è Silvio Berlusconi, magari con quel ruolo di grande ispiratore del centrodestra, per cui poi Salvini invece va a prendere i voti, cioè Berlusconi allenatore e Salvini centravanti, come ha usato con questa immagine Berlusconi di recente. Nobile. È possibile? Sì, ma Berlusconi ha dato tanto alla politica italiana, indubbiamente è ancora e sarà ancora un protagonista finché deciderà di fare politica. Detto questo, è indubbio che serve un leader che giri il territorio esattamente come fa Salvini, e che insomma tasti anche i problemi della gente. Salvini forse ha il pregio di fare proprio questo, e ritengo che sia anche questa una delle ragioni per le quali Matteo insomma raccoglie tanti consensi, raccogliere i voti. Però ha detto una cosa sulla quale voglio subito interrogare Velardi. Oggi Salvini, intervistato su Repubblica, ha detto: tanto si andrà a votare presto, sempre il solito refrain, la solita questione, si andrà a votare presto, Velardi? Ma non lo so, ma non penso. Io penso che Renzi ha intanto nel Parlamento di Grillo, Bersani e Berlusconi, perché questo è il Parlamento, c'è una produttività nell'ultimo anno e mezzo che non c'è stata negli ultimi 15 anni. A Renzi conviene tenere un Parlamento sotto ricatto, perché nel momento in cui eleggerà invece un Parlamento con una sua maggioranza, lì per lui cominceranno i dolori. Chiaro? Sì. Perché la sinistra è sempre così, si ha questo tafazzismo, allora. Ma certo, no? Certo. Invece adesso ce li ha tutti quanti sotto ricatto, perché nessuno vuole andare a votare, e quindi fa passare tutto, fa passare le cose. Questo sei, per questo si andrà il 2018. Se posso dire una cosa, anche sì. Però guardate, la storia del Berlusconi federatore è una storia molto politicista, molto politicista. Gli italiani vogliono dei leader, non gli italiani, le persone vogliono dei leader politici. E non c'è la storia dell'allenatore, dell'uomo in campo, c'è uno che diventa leader e che poi comanda nel suo ambito, nella sua coalizione, chiaro? Altri schemi non funzionano proprio, sono una roba vecchia. Quindi l'idea di Berlusconi allenatore, cioè la gente vota chi vede, chi vota. Deve arrivare un nuovo leader di centro-sinistra, di centrodestra, che dice a Berlusconi grazie tante. Tu hai inventato il centrodestra in Italia, adesso fatti da parte. No, anche perché Sallusti, quando parlava di mummie, Salvini, io l'ho letta così in realtà, in maniera forse un po' sfrontata, ma non è che si riferiva proprio a Berlusconi, le mummie, basta mummie. Ma non lo so, a me risulta un grande rispetto, addirittura una stima. Ma sì, ma politicamente si parla, non è che... Il problema è che Salvini deve decidere cosa fare da grande. Può essere un nuovo Grillo, cioè, è impressionante vedere che se Salvini e Grillo si alleassero sarebbero sì il primo partito, ma addirittura vincerebbero, stravincerebbero in questo andrebbero momento. Loro al ballottaggio probabilmente in prima posizione davanti al PD. Allora Salvini deve decidere questo grande potenziale che ha, che cosa vuol farne, lo vuole tenere lì per continuare a fare quello che fa o lo vuole mettere a disposizione di un progetto di governo? Questo non posso deciderlo io, deve deciderlo Salvini. Se decide per questa seconda ipotesi è evidente che deve trovare dei punti di accordo e trovare qualcuno che garantisca anche per lui rispetto agli italiani più moderati. Per quanto riguarda le elezioni, che sentivo parlare, elezioni politiche anticipate, io credo che Renzi sia molto più debole, non tanto per i risultati delle regionali, ma perché la sua minoranza gli ha dimostrato che senza un accordo convinto sul territorio lo fanno ballare come quando vogliono. Non dimentichiamoci che la candidata di l'unica vera candidata di Renzi, che era la Moretti in Veneto, era quella che non poteva vincere, ma è andata talmente male numericamente sì, effettivamente qualche domanda se la porrà. Io credo che in Parlamento l'opposizione del PD a Renzi può essere più forte, più spavalda. E quindi adesso con tutti i nodi che vengono al pettine tra riforme, problemi economici e tutto quanto, la sua posizione un po' ballerà sì. Intanto io vi ricordo il numero per intervenire, 800 24 00 24. Tra un po' sentiremo anche qualche ascoltatore. Vorrei chiedere però due cose a Morelli. Detto che dalla campagna c'è una novità, le sezioni scrutinate in questo momento sono 5023 su 5835, quindi siamo quasi in addirittura d'arrivo, e Vincenzo De Luca ha allungato un pochettino, è al 40,88% nei confronti di Stefano Caldoro che è al 38,26. Non so se a questo punto si possono cambiare le carte in tavola, ma De Luca è verso la vittoria. Morelli, la questione delle mummie, a chi si riferiva Salvini? Ma non lo so, per esempio, visto che fa riferimento a De Luca, agli impresentabili, i cosiddetti impresentabili, che sarebbe ora. Però non sono mummie quelle, quelli sono impresentabili. Non saranno mummie, però solo pensare che ci sono dei condannati, e ci penserà magari la legge Severino, se logicamente il governo Renzi non la modificherà, insomma le mummie sono anche quelle, indubbiamente. E poi Salvini, ricordiamolo, l'ha già dichiarato, l'ha già scelto. Il suo percorso, quello che vuole fare da grande è l'anti Renzi, cioè diventare il ma questa è la questione, vuol farlo da solo? Addirittura Sallusti dice in un'ipotetica fantapolitica, se si mettessero Lega e 5 Stelle sarebbero nettamente il primo partito, oppure vuol farlo tenendo insieme il centrodestra, cioè vuol fare quello che faceva Berlusconi prima con il Popolo della Libertà? Non mi pare che Salvini sia il tipo, no? Ma per di più, insomma, i vecchi schemi di centrodestra sono, quello sì è veramente mummia, è da sarcofago, nel senso che i vecchi schemi non esistono proprio più. Un centrodestra con Alfano, che insomma di centrodestra ha ben poco, francamente è difficile da sostenere. Certo ci sono aree di questa compagine di area popolare che indubbiamente sono vicine anche ad espressioni anche sul territorio di politiche di centrodestra. centrodestra, ma il loro leader evidentemente insomma non è più riconosciuto tale, altrimenti tanti e tanti sul territorio, esponenti non di spicco, magari consiglieri comunali eccetera, non penserebbero di passare per esempio alla Lega. Allora andiamo a sentire il traffico, poi Vincenzo da Perugia, ripartiamo da lui, il primo ascoltatore. Eccoci qua, Vincenzo da Perugia, buongiorno. Buongiorno. Che dici? Volevo dire questo, che siamo, mi dispiace per Sallusti, forse non si sarà reso conto, ma lui vive, come io purtroppo, nel paese più comunista del mondo. Lei ha votato ieri, immagino che cosa? Sì. No, io non ho votato, no. Per la prima volta, io ho 57 anni, ho sempre votato, per la prima volta mi sono rifiutato di votare. Perché? Perché intanto siamo in, ripeto, un paese più comunista del mondo, dove un'oligarchia si assegna i soldi, prende degli stipendi, ha dei diritti acquisiti, stipendi da favola, i prossimi consiglieri regionali prenderanno 500.000 euro. Ma si riferisce all'Umbria, però in generale l'Italia, proprio l'Italia è il paese più comunista. L'Italia è il paese più comunista, sì. Perché qui abbiamo una classe dirigente locale, nazionale, che sono 40 anni che è sempre lì, guadagna stipendi da favola, sì. I diritti acquisiti per loro sono acquisiti, per cui non si può toccare niente. Per il popolino, cioè quelli che appunto, il popolino, i diritti non sono acquisiti chiaramente, erano temporanei chiaramente, per cui si può togliere tutto al popolino, logicamente. Vabbè, questo cosa c'entra col comunismo, scusi Vincenzo? Perché in Russia... Cioè il comunismo dovrebbe essere tutti, no? Il comunismo... La Russia non era un paese comunista, la Russia era una dittatura dove c'era un'oligarchia che prendeva i soldi e poi il popolino, E quindi lei dice così. Vabbè, niente, comunque lei non è andata a votare, vabbè, è uno dei quelli che non è andata a votare, però Velardi dice che è normale che sia calata il 10% rispetto alle ultime regionali. Dare la zanzara con queste telefonate a prima mattina, che devo dire, mica le scelgo le telefonate, non lo so. Proviamo allora con Nunzia da Bari, vediamo. Nunzia, buongiorno. Buongiorno. Sì, dica, lei ha votato? Ha votato. Ho soppresso la volontà di non andare, ma d'altra parte in Puglia non è andata a votare la metà degli aventi diritto. Più o meno come in tutta Italia, dove si votava. Anche qui. No, io la considerazione che invece volevo fare era sulla presenza della candidata Laricchia del Movimento 5 Stelle. Sì. Ma mi interessa il suo dato, sia del fatto che era una donna e sia come fatto generazionale. Sì. È una lezione a tutte quelle, lei sa che in Puglia non è passata nella legge elettorale la possibilità di votare due preferenze e nel caso la seconda a favore di una donna. Mentre in altre regioni questo è passato. Io non so quante donne saranno elette sui 50 consiglieri, ma sicuramente l'esperienza lei della dice poche. Ma temo poche. Mm. Ma l'esperienza della Laricchia mi interessa perché questa ragazza, perché ha 29 anni, quindi di ragazza si può parlare, detta un elemento dal quale non si potrà prescindere, per il coraggio che ha avuto, per la compostezza. Capito per chi ha votato lei? No, non è questo, non mi interessa, io non l'ho votata, ma non è questo che mi interessa, è l'esperienza femminile, quindi noi che abbiamo combattuto da anni in una regione molto maschilista, che in una legislatura non ha avuto neanche una donna eletta in passato in consiglio regionale, l'esperienza di questa ragazza segna un punto, va bene, lei dice anche il Velardi, questo va bene, la riscossa delle donne in politica al sud. Sì, no, va bene. È il secondo partito, conosco, è il secondo partito questa fanciulla pugliese. Per esempio, però, la candidata del Movimento 5 Stelle Ligure, che ho visto qualche volta in televisione, mi sembra una ragazza preparata, serena, ma abbastanza brava. Ma certo che devono arrivare in politica i giovani, le donne, è fuori discussione. Ma chi era ste mummie, Velardi? Ma ste mummie chi sono? Io non l'ho ancora capito, perché Morelli ci dice gli impresentabili. Ma gli impresentabili sono fesserie, appunto. Sono state sconfitte dal voto queste teorie, diciamo. E chi sono ste mummie per Salvini? Beh, una mummia si è manifestata giovedì scorso, la Bindi, e ha fatto vincere De Luca in campagna, per esempio. Quindi delle volte le mummie. Vabbè, ma mica ce l'aveva con la Bindi, Salvini. Dai, mica pensava la Bindi, che gli frega, Salvini. Immagino che il messaggio, diciamo, più o meno trasversale sia stato nei confronti di Berlusconi, quello dai, di Salvini. Però insomma lì comincerà una discussione dentro il centrodestra, perché il problema è questo: Salvini non può fare il leader del centrodestra continuando a dire che i rom vorrebbe fucilarli o bruciarli vivi e così via. Beh, adesso questo non lo dice. Altrimenti non diventa, diciamo, competitivo per il governo. E nello stesso tempo, appunto, mettendo insieme delle forze che invece hanno una caratteristiche diverse, come più o meno diceva anche Sallusti. Allora non si possono avere botte piene e moglie ubriaca. È un qualche... si toglie la felpa e diventa competitivo e si candida contro Renzi alle prossime elezioni, oppure no, non so. Per chiudere, Morelli si toglie sta felpa, Salvini? No, adesso non dice di bruciare i rom vivi, per carità, ha detto le ruspe. Mi sa che continuerà, se diventerà sempre più leader del centrodestra, se continueranno appunto a dire di lui queste cose su Repubblica, su tanti giornaloni e testate giornalistiche che poi insomma non sono proprio contro a quelli che vanno lì a tirargli uova, sassi, eccetera. Sì. Va bene, intanto io vi ringrazio Alessandro Sallusti, Alessandro Morelli e Claudio Velardi, ma continuiamo fino alle 10, avremo Carla Ruoccolo del Movimento 5 Stelle, Massimo Cacciari, Maurizio Bianconi, state con noi con le vostre telefonate all'800 24 0024, dopo il giornale radio. Buongiorno da Maurizio Melis. Di recente è stato presentato alla Commissione europea, che a sua volta lo aveva commissionato, un rapporto, un lavoro molto esteso ed approfondito dedicato al tema del finanziamento a lungo termine dell'efficienza energetica nei settori abitativi e industriali. Questo rapporto si è concentrato soprattutto sull'individuazione dei corretti periodi di payback, cioè di ritorno dell'investimento per varie tipologie di progetti di efficienza energetica. Spesso infatti la filiera dell'efficienza energetica si ferma sulla porta della banca, questo perché con pochissime eccezioni gli istituti di credito e in particolare le cosiddette commercial bank faticano a comprendere i progetti di efficientamento e a valutarne il rischio e quindi a individuare appunto dei modelli di finanziamento adeguati. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20.50. Buona giornata a voi tutti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Mentre siamo tutti un po' distratti dai risultati delle elezioni amministrative, scopriamo che oggi, 1 giugno, è un giorno particolare, è il giorno in cui si apre la stagione delle tasse. Tra IMU, TASI, IRPEF, IRAP e altri tanti balzelli, da qui alle prossime settimane dovremo versare al fisco qualcosa come 45 miliardi di euro e sarà solo il primo acconto di un appuntamento che poi tornerà con la seconda rata tra novembre e dicembre. Intanto si parte con la scadenza del 16 giugno, 2 settimane e un giorno da oggi, per pagare le tasse sugli immobili, l'IMU e la TASI, le cui regole non sono cambiate rispetto all'anno scorso, ma continuano a impensierire gli oltre 25 milioni di italiani che hanno una casa, un altro immobile, perché il conto non sarà affatto leggero, quasi 12 miliardi e mezzo da pagare ai comuni, in parte anche allo Stato. Qui in realtà c'era una promessa di semplificazione, quella di ricevere a casa i bollettini precompilati dell'IMU e della TASI con l'indicazione degli importi da pagare, cosa che però non è stata fatta se non in pochissimi comuni. Per le altre imposte il conto sarà ancor più pesante, 32-33 miliardi per i professionisti, i commercianti, gli artigiani, i dipendenti con altri redditi e anche per le imprese, con la possibilità però sia di rinviare il pagamento al 16 luglio con l'aggiunta di una piccola la maggiorazione, sia di chiedere la rateizzazione del debito con il fisco. Forse una magra consolazione, ma si sa, con le tasse bisogna sapersi accontentare. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ebbene sì, cari ascoltatori, sono ancora Alessandro Milan, sono le 9:10 minuti, oggi andremo in diretta con questo speciale sulle elezioni fino alle 10, ormai si profila un 5-2, cioè 5 regioni al centro-sinistra, perché anche la Campania pare sempre più vicina a Vincenzo De Luca, 40,88% in questo momento, anzi 40,87% nei confronti di Caldoro che è al 38,3%, e dunque quando sono 5.289 le sezioni scrutinate su 5.835, sebbene per pochi punti percentuali, 2, ma pare Vincenzo De Luca in testa, e dunque sarebbero 5 le regioni al centro-sinistra e 2 al centro-destra, Liguria e Veneto. Questo ormai lo sapete. Intanto saluto l'onorevole Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, eccoci qua, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Non avete vinto regioni, prima si diceva primi in varie regioni, in realtà il Movimento 5 Stelle si è attestato secondo in Puglia come partito, e terzo in Campania e secondo in Liguria. Siete soddisfatti perché non avete, o puntavate veramente al colpaccio conquistare una regione? No, buongiorno a tutti, siamo molto soddisfatti perché abbiamo comunque dimostrato che il Movimento 5 Stelle è forte, si sta affermando nei territori, noi abbiamo fatto una scelta determinata, quel correre da soli come un'alternativa a questo sistema di partiti, i quali per battere un'opposizione come la nostra devono mettersi sempre più liste, sempre più persone. Sì. E mescolarsi in modo che poi il giorno dopo devono scendere a patti gli uni con gli altri. Quindi andare da soli, dice, ha portato al fatto che non si riusciva a vincere, però siete coerenti con il vostro messaggio politico. Siamo coerenti, pensi che noi abbiamo fatto una campagna elettorale senza soldi, praticamente con piccole donazioni private. I partiti hanno macinato milioni, hanno speso milioni di euro degli elettori e dei cittadini. Prima sentivo la Tafi, il prelievo fiscale in Italia è folle, anche proprio perché le spese non sono completamente fuori controllo, anche quelle dei partiti. Noi abbiamo fatto una campagna elettorale a costo zero, sì. 50 candidati in campagna, avevamo 50 candidati contro i 600 di De Luca, praticamente per battere noi ormai ci vuole veramente un'armata. Quindi lei dice siete soddisfatti per questo, però guardi, lei dice non facciamo alleanze, le faccio sentire quello che ha detto Emiliano, che è diventato presidente della regione Puglia, dove in Puglia ha deciso, ha annunciato già qualcosa sulla quale vorrei un suo commento. Senta Emiliano. Avevo già detto durante la campagna elettorale che avrei firmato un decreto di nomina per Antonella Laricchia come assessore all'ambiente, perché abbiamo identiche politiche sui rifiuti, su molte altre questioni legate all'ambiente. Insomma, Antonella Laricchia era la candidata vostra del Movimento 5 Stelle. Emiliano la vuole mettere assessore in giunta. Allora, che si fa in questi casi? Si può fare? Ma, guardi, a noi le poltrone allettano poco. Siamo molto più attenti ai singoli temi. In Parlamento abbiamo fatto passare, abbiamo proposto ed è passata la nostra legge sui reati ambientali. E proprio appunto a proposito di ambiente, chi inquina è attenta alla salute dei cittadini. Fino a 20 anni di carcere. Vabbè, ma è uno scandalo. Cioè, sarebbe uno scandalo sedere nella giunta di. Ma non è quello che a noi interessa, non è quello a cui noi puntiamo. Noi puntiamo sicuramente con Emiliano e con tutti quanti i presidenti di regione a fare delle proposte concrete, perché è quello che poi interessa alla gente, che vengano poi fatte delle cose che rendano la vita più semplice alle persone. Il fatto che poi all'ambiente ci sia Antonella Laricchia non interessa a nessuno, è quello che cambia, se poi non si concretizzano determinate cose. Quindi noi vogliamo mantenere la concentrazione su singoli temi, metteremo alla prova tutte le giunte quando è il momento di votare le nostre proposte, come facciamo in Parlamento, se sono realmente dalla parte dei cittadini oppure continuano a spartirsi poteri e poltrone. Va bene, questa è la linea che tenete. Intanto la ringrazio, Carla Ruocco, per essere stata con noi. Voglio ricordare, deputato del Movimento 5 Stelle, grazie. E vorrei sentire qualche ascoltatore, cominciare da Stefano da Livorno. Buongiorno Stefano, lei è andata a votare? Sì, buongiorno a lei. Sono andato, però quello che volevo dire io è questo. Sì. Se guardo queste elezioni qui da un punto di vista semplicemente politico, mi rendo conto che si sbaglia quando gli italiani criticano i politici che ci hanno. Sbagliano veramente, perché vogliono quello che hanno, esattamente così com'è. Le faccio un esempio. Il fatto dell'immigrazione e compagnia, noi si sta diciamo così, effettuando dei costi che non si possono avere. Siamo in crisi, quindi non possiamo nemmeno farle queste cose qui. Però si fanno lo stesso, capito? Perché se esce qualcuno e dice... Ma che vuol dire? Cioè, gli italiani vogliono votare quello che... In che senso? Cioè, mi faccia capire concretamente. Nel senso che con le preferenze che danno, cioè facendo in modo che tutto rimanga statico, perché sì, è vero, Salvini cresce, le faccio un esempio, il Movimento 5 Stelle cresce, ma non come dovrebbe crescere. E vabbè, ma gli italiani votano, insomma... Però questa idea... Cioè, lei è della linea, mi faccia capire, della linea gli italiani non sono abbastanza coraggiosi, che ne so, di votare per lei chi ha votato, il Movimento 5 Stelle? No, ho dato Salvini. Salvini, e ma ha preso il 20% in Toscana, più del 20%. Sì, ha preso il 20%, una roba clamorosa. Vede, le dico una cosa, se lei si trova nei debiti, come ci troviamo noi, quindi cosa fa? Invita gli amici a cena? Oppure cosa fa? Lei si trova nei debiti, c'ha la banca che lo insegue, lei cosa fa? Invita mi faccia capire, lei nella rossa toscana avrebbe preferito a dire i toscani sarebbero stati molto più coraggiosi a dire votiamo Salvini, perché no, sennò, diciamo sennò tenetevi i politici che avete, non lamentate. Infatti, uno è questo, siccome quando li senti parlare sono tutti contro certe cose, cioè questa immigrazione ci costa una cifra, guarda là, poi si permette il fatto che ci muoia il senza tetto sotto casa d'inverno, succede anche questo in Italia, no? E poi quando vanno a votare, dice sono conservatori. Siccome sono dei vigliacconi, no? Hanno paura di uno che ragiona come Salvini. Vabbè, paura, ma insomma, Stefano, ognuno poi vota come vuole. Detto che la Lega ha fatto un exploit clamoroso in Toscana, è arrivata al 20%. Comunque io vorrei continuare le considerazioni con il professor Massimo Cacciari, che saluto e che è con noi. Buongiorno, professor Cacciari. Buongiorno. Allora, qua si dice, come al solito, vincono tutti dopo le elezioni, però se si vuole fare... è normale. Però in realtà qualcuno forse ha vinto e qualcuno forse ha perso. La Lega sicuramente ha guadagnato molto. Intanto le chiedo, Renzi ha perso? Cioè è una battuta d'arresto per Renzi questa elezione? Ma non è così, secondo me, che va impostato il ragionamento. Cioè, queste elezioni dimostrano in modo clamoroso che il Partito Democratico è Renzi, e quando Renzi non è in prima fila e quando il voto non è per Renzi o contro Renzi, il Partito Democratico è esattamente quello che era prima di Renzi, cioè un non partito, privo di ogni radicamento territoriale, privo di ogni leadership, almeno dal po' in su, e privo di ogni strategia coerente con le realtà regionali e locali. Non si è formato un partito, c'è Renzi, e Renzi copre esattamente la situazione che c'era con i Bersani, che c'era con il Fassino, che c'era con i D'Alema. Forse la esemplificazione più plastica di tutto ciò è proprio nel suo Veneto, con la Moretti che è arrivata al 20%. È evidente, quando tu hai una leadership semplicemente, cioè la Moretti ha preso il risultato peggiore di tutta la storia della sinistra, del centro-sinistra dal dopoguerra, un risultato clamoroso. E questo è il risultato di che cosa? Di un'assenza totale di una politica articolata sul piano territoriale, il vecchio discorso sul federalismo, il vecchio discorso su cui ho perso la voce, che il Partito Democratico quando è nato doveva articolarsi attraverso essere un partito veramente federale e promuovere e sostenere la formazione di leadership locali, cioè che doveva essere un partito. Renzi è lontano le mille miglia di questa idea, ancora più dei D'Alema, dei Fassino, dei Veltroni, e questo è il risultato, cioè che quando non c'è lui a mostrare la sua faccia è paracaduta in regioni come il Veneto, alcune renzine, così il risultato non può essere che questo. Voglio dire, avevo larghissimamente previsto un distacco di 15 punti circa tra Moretti e coso, il risultato è anche più clamoroso. Effettivamente c'è da dire che laddove invece il PD ha vinto, per esempio, penso a Emiliano, che non è un renziano, e penso anche a De Luca, che se vince non è certamente un renziano in senso stretto. In questo a maggior ragione lei dice non Renzi deve far conto col fatto di non avere costruito nulla dopo di sé in questo momento. Sono dei ras locali, esattamente come Zaia nel Veneto, la stessa cosa, sono dei ras locali. E quindi... con Renzi non c'entrano assolutamente nulla, ma non dal punto di vista che siano d'accordo o non d'accordo con lui con la linea, non c'entrano nulla dal punto di vista antropologico. Ma che problema politico si trova da dover fronteggiare quindi da domani, Renzi? Ma immenso, cioè se ragiona capisce che non può governare a lungo senza nessuna forma di rappresentanza locale. Beh, lo capirà, voglio sperare. Ma dubito però, perché appunto perché la sua mentalità è una mentalità totalmente centralistica, esattamente come quella dei suoi predecessori. Senta, invece il centrodestra che succede? Se, può Salvini davvero federare il centrodestra e raccogliere il voto dei moderati? Io non credo all'interno del centrodestra. Assolutamente no. Assolutamente però qui si, no. Si pone il problema di una Lega che in alcune regioni ha doppiato Forza Italia. Guardi, il discorso è questo. Se Berlusconi ancora ragiona minimamente e ragiona anche Salvini e quindi sa che non può vincere sul piano nazionale lui, come non potrà mai vincere Le Pen in Francia sul piano generale, allora si metteranno d'accordo e succederà quello che è successo nel 93-94, non so se qualcuno se lo ricorda. Che cosa successe? Successe che il centrodestra si articolò, ognuno ebbe la propria provincia. E quindi nessuno disturbò Forza Italia al nord e la Lega al nord, nessuno disturbò la Lega al nord, dove vinse anche a Milano Formentini, eccetera, eccetera, e nessuno disturbò il Forza Italia e il centrodestra, diciamo così, tradizionale, liberista, eccetera, eccetera, al sud. Faranno una cosa analoga se ragionano, se ce la fanno a ragionare. E quindi Berlusconi coalizzerà le forze Nuovo Centrodestra, Fratelli d'Italia, Resti di Forza Italia, eccetera, eccetera, puntando soprattutto nelle regioni del centro-sud. E la Lega va piena libertà al nord. Questo è il discorso che possono fare se vogliono pensare di vincere contro Renzi. Sì, rimane da capire in chiusura, professor Cacciari, a chi si riferiva Salvini quando a caldo ha detto le mummie ora hanno fatto. Ma certamente fatto si riferiva a Berlusconi. Appunto, con queste premesse. Sì, ma non è che tolto Berlusconi e Salvini possa prendere tutti i voti che aveva Forza Italia, eccetera, eccetera. Ne prenderà una buona parte, li sta prendendo, li ha già presi, però è chiaro che lui deve trovare un accordo anche con quello che resta del moderatismo di centro-centrodestra. È chiaro che deve trovarlo questo accordo se vuole puntare davvero a vincere sul piano politico generale. E sarà molto difficile, molto difficile. Allora intanto la ringrazio professor Cacciari per essere stato con noi. Grazie, ovviamente buona giornata Massimo Cacciari. Sentiamo qualche ascoltatore a cominciare da Pietro da Roma e anche Roberto da Roma erano lì da un po'. Pietro, iniziamo da Pietro. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Dica. Una considerazione di natura tecnica elettorale, secondo me, pochi lo hanno colto, nel voto delle regionali, nelle elezioni locali in genere, conta moltissimo il numero di liste con cui sei collegato, perché significano moltiplicare il numero di candidati che si muovono sul territorio, significa moltiplicare il numero di gruppi di interesse locale, sociale, economico, sindacale, che si mobilitano per un loro candidato. E vabbè, ma questa è la legge elettorale, cioè sono le leggi elettorali che si utilizzano in ambito locale che impongono questo. Non è una esigenza, come diceva poco fa la portavoce del 5 Stelle, di contrastare i 5 Stelle, no, in particolare il centro-sinistra e meno, ma un po' ci riesce, anche il centrodestra cercano sempre le coalizioni. Ho capito Pietro, ma lo può fare anche il Movimento 5 Stelle, poi è una scelta politica, certo, infatti, che è una scelta politica che non fa, stanno da soli, però diciamo rimangono fedeli a questa coerenza dal punto di vista numerico, però pagano poi, no Pietro? Sicuramente di fare alleanze con altri gruppi, perché tanto alle parlamentari come alle varie selezioni che fanno c'è sempre un numero di candidati superiore ai posti disponibili, allora invece di fare una lista ne fanno due, ne fanno tre se possibile. Vabbè Pietro, ovvio. Questa però è una... è una questione di oggi. Bassolino sindaco a Napoli diceva con 8, 9, 10 liste, la Iervolino nel 2001, lo dico perché sono napoletano di origine e ho vissuto quegli anni, la Iervolino nel 2001 aveva... All'epoca della Iervolino c'erano 3.000 candidati. È chiaro, il problema è che poi devi dare le poltrone un po' strapuntini a tutti, l'assessorino poi che con lo 0,2% pretende di avere magari o l'assessorato o la presidenza di una commissione comunale. Comunque la ringrazio Pietro, rimarrei a Roma da Roberto, buongiorno. Ciao Alessandro. Eccoci, ciao. Io volevo parlare di due dichiarazioni che ho appena sentito, una di Salvini e una di Toti. Sì. Salvini con le mummie. Sì. E chi allora erano le mummie, dire, secondo te? Berlusconi, dai. Sì, sì, però dico una cosa, non ripresenti Bossi nel 18. Ma Bossi ormai fa il padre nobile della Lega, fa il presidente, nobile. Non conta più niente, dai, Umberto Bossi. Però sta lì. E beh, ma cosa deve fare? È sempre senatore. No, dico, visto che Salvini è contro le mummie, non dice alla prossima elezione, ma alle prossime elezioni vabbè, e vedremo, ma non lo so, magari non lo farà, non lo so, vedremo. Questa. E invece Toti ha detto che la Liguria è stata isolata e i liguri sono stati puniti. Sì. A me non risulta, anzi c'è stata una grandissima solidarietà quando hanno avuto le varie alluvioni. A te risulta? No, io credo che lì sia voluto pagare, far pagare una continuità politica con Burlando, è abbastanza evidente. Non so, Renzi pare che abbia detto ai suoi la divisione, Civati, Cofferati, insomma ci siamo spaccati e quindi abbiamo pagato questo. Io credo invece che Raffaella Paita sia stata identificata dai liguri, credo, ma non è che posso saperlo, come una sorta di continuità con una politica con Burlando, per la quale hanno detto basta, può succedere. Roberto, lei non crede? No, io penso una cosa però, che se Cofferati avesse vinto le primarie avrebbe vinto anche adesso. Cofferati. Ma Cofferati sì, effettivamente è conseguenziale a quello che ho detto. Esatto. Perché è un uomo che non faceva parte della vecchia nomenclatura, cioè della vecchia gestione Burlando, e probabilmente i liguri hanno detto no, basta. Poi molti voti sono andati al Movimento 5 Stelle, Berlusconi si è messo in campo e queste cose succedono in politica e quindi ha vinto. Toti, la ringrazio. Sentiamo chi da Genova magari può dirci qualcosa di più. Anna, buongiorno. Buongiorno. Lei ha votato? Io ho votato. Io sono elettrice da sempre del PD. Sì. Alle primarie avevo votato per Cofferati. E quindi? Ma poi da quel momento basta Cofferati. Perché adesso voglio ringraziarlo per come ha contribuito lui, Pastorino e Cini fare leggere Toti, che non c'entra niente con la Liguria. Cioè lei è una di quelle che dice è colpa loro della sinistra che ci ha diviso. È colpa loro, hanno contribuito, anche quegli altri prima, certo. Guarda che però Pastorino ha preso poco, credo di. Non è che ha portato via molti poco, voti. Ha preso quasi il 10%. Sì. E questo avrebbe, la situazione è questa: una personalità come Cofferati non avrebbe dovuto comportarsi così, perché dare la Liguria in mano alla destra, ma soprattutto a Toti, che non c'entra niente con la Liguria, adesso lo mandiamo a Novi Ligure, a Parodi Ligure, a Davi Ligure e gli domandiamo come mai questi territori del Piemonte chiamano così. C'è stata questa gaffe che peraltro Toti ha smentito, ha detto non è proprio che avevo detto che Novi Ligure stia in Liguria. Però Anna, la sento molto arrabbiata, per lei chiaramente ha perso il Partito Democratico per questa divisione, questa spaccatura all'interno del partito, non ci sono altri motivi. E quindi Renzi cosa dovrebbe fare adesso, secondo lei, per il PD? Quindi era questo che volevo dire. Va bene, ma Renzi che dovrebbe fare adesso per il PD? Secondo lei? Renzi dovrebbe continuare a lavorare per bene, cercando di tener conto di tutte le voci nel limite del possibile, rispettando però le maggioranze. Lei parla come una politica. Non può comandare Civati, a parte che non c'è più. Appunto, è fuori dal partito, quindi è fuori dal partito, però non dal Parlamento. La poltroncina se l'ha tenuta. Va bene. Anna, la ringrazio, grazie per essere intervenuta. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Stiamo parlando delle elezioni regionali, il 5-2 ormai si profila, con il centrosinistra che conquista la Puglia, la Toscana, le Marche, l'Umbria e molto probabilmente la Campania, dove si sta finendo lo scrutinio, ma De Luca in vantaggio di un paio di punti percentuali su Caldoro, mentre il centrodestra conquista la Liguria, come avete sentito è anche abbastanza a sorpresa con Giovanni Toti, e il Veneto invece, dove stravince Zai al 50,46%, mentre la Moretti si ferma al 22,71%, davvero poco. C'è anche spazio prima della pubblicità e poi rientriamo con un ospite per Luca da Roma. Luca, buongiorno. Dalla Campania non ci chiama nessuno. Che fate? Dormite? Fate il ponte? Avete votato? Non lo so. Luca, buongiorno. Buongiorno, salve. La chiamo, purtroppo sono nella metro, quindi potrete sentire qualche voce. Nella metro? Vabbè, vediamo. Ci passi qualcuno? È vuota, c'è il ponte, quindi c'è poca gente. Dica la sua. E volevo dire a, non so se Cacciari è ancora in linea, no, purtroppo che, no, ci ha lasciato, però ne faccia la sua consigliazione. C'è un discorso della leadership di Renzi o non Renzi. Renzi ha vinto le elezioni con il famoso 40%, è bene che sia chiaro, sì. Solo ed esclusivamente per lo scambio di voti degli 80 euro. Se lo fa un indagine, un sondaggio, sì. Renzi ha vinto solo ed esclusivamente per quello, sì, però, il programma che è uguale a quello di Bersani, e né per altri motivi rivoluzionari, visto che poi all'atto non ha fatto nessuna rottamazione, ha fatto risolutamente qualche amico suo da sì, Firenze, visto che sì, è pieno adesso di conterranei in tutto il Parlamento e il governo, quindi non capisco, ripeto, ma è chiaro, la sua posizione è chiara, nonostante la linea sia un po' disturbata, ma sta in metropolitana, ce l'ha detto. Per lei Renzi ha vinto le europee, ha vinto il famoso 40% solamente per gli 80 euro dati a parte degli italiani, quello che lei ha chiamato voto di scambio, e quindi i programmi non c'entrano. Va bene, facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità, poi riprendiamo. Sarà con noi Maurizio Bianconi, deputato di Forza Italia, fitto che è bianconiano, questa è la linea Bianconi, e riprendiamo anche con gli ascoltatori, Mauro da Modena e altri, chiamateci all'800 24 0024. Sono le 9:34 minuti, saremo in diretta fino alle 10 con questo speciale elezioni. Intanto voglio salutare l'onorevole Maurizio Bianconi di Forza Italia. Buongiorno Bianconi. Buongiorno. Eccoci. Non sono più di Forza Italia, sono, sì, riformisti e conservatori e riformisti. E infatti adesso c'è questa cosa da aggiungere, perché io prima ho detto che lei è fittiano, ma invece è fitto che è bianconiano. Esatto, non si... bravo. Sì. Questa una su due l'ho azzeccata, sì, Vabbè, insomma, però Bianconi qui se da commentare. Che cosa? Una debacle? Gli elettori hanno fatto la fotografia della situazione. Il corpo elettorale non è che non capisce anche troppo bene. Tanto la metà non è andata a votare perché ha capito che la politica non riesce a risolvere i problemi perché è stata depotenziata e si è depotenziata. Per gli altri hanno detto: Renzi, stai calmino, fai il tuo e non andare oltre il tuo, e gli hanno dato la stoppatina. E al centrodestra hanno detto: guardate che Nazareno ci è piaciuto molto molto molto poco, e premiamo chi invece fa Poi Bianconi, c'è Salvini. Aspetti che glielo faccio sentire, Salvini, in diretta su Sky. Vedo che ne sfoggia una nuova, Salvini, sì, oggi con le felpe, immagino. Senta Salvini, Bianconi. Esatto, ruspirazione. Adesso glielo chiederemo, Roberto, ma io le chiedo a questo punto. Che palle sta roba delle ruspe. Tutte le volte con Salvini le ruspe. Vabbè, che c'ha di felpa, io non lo vedo, Toscana. C'ha la felpa, la maglietta ruspe in azione. Questo è Salvini, Sentiamo Bianconi. C'è un progetto che sta appassionando e coinvolgendo milioni di italiani. Poi Salvini è l'ultima delle pedine, l'ultima delle provocazioni. Chi farà cosa viene dopo. Non mi appassiona il dibattito renziano, io. Però stiamo costruendo un progetto, ripeto, non passi dall'1 al 20% in una terra come la Toscana solo parlando di Rom. Parli di agricoltura, parli di turismo, parli di artigianato. Insomma, questo è Salvini, parla del progetto federatore del centrodestra. Lei se lo vede Bianco. In Toscana, nella sua Toscana, passa dall'1 al 20 e fa bene, perché molti dei miei amici l'hanno votato, moltissimi, sì, anzi, e perché qui c'è la Forza Italia Verdiniana e Nazarena. Firenze ha preso il 6%, a Pisa il 7%, a Livorno il 6%, e ha preso, quindi, insomma, i voti di Forza Italia sono andati alla Lega. Chi non è andato o è andato alla Lega, e addirittura in questa terra Fratelli d'Italia ha fatto i risultati del vecchio movimento sociale, ha preso circa il 4%. Quindi la Lega qui aveva già sbranato, tant'è vero che alle 11 un minuto il coordinatore regionale Parisi si è dimesso, appena hanno attivato sulle prime 10 schede ha capito che la rosto l'aveva fatto, il dovere suo l'aveva fatto, aveva smontato Forza Italia e se n'è andato. Però lei, Bianconi, un centrodestra a guida Salvini, se lo vede... No, intanto bisogna fare un passo indietro, ma quando ha parlato delle mummie Salvini a botta calda, a chi si riferiva? Sì. Lei lo sa a chi si riferiva? No, a me non sicuro. Beh no, a lei no, però dai, si riferiva a... Non chiedete a Salvini, insomma. Si riferiva a... Dai, lo dica, si riferiva... Tutti lo sappiamo. Si riferiva a Berlusconi, perché... dai. Lo pensa lei. Sì, lo penso io, certo. Dico che Berlusconi ha prima federato tutti e poi ha disfatto tutto il giochino, ed è il primo responsabile di questo disastro di un centometro. Ah, beh, adesso lei ce l'ha sempre con Berlusconi. No, ce l'ho perché ha fatto una cosa mondiale e ha fatto il suo contrario. Zenit e com'è Nadir? Nadir, no? Esatto. Ha fatto il meglio e il peggio, come le donne. Anche le donne sono capaci del meglio straordinario e del peggio straordinario. Berlusconi come una donna. Sì, vabbè, però la questione politica rimane. Se lo vede un centrodestra federato attorno a Matteo Salvini come figura? No, francamente non lo vedo. Lo vedo in questo momento di come posso dire, di transizione, che molti voti si parcheggino su Salvini, che è un voto chiaramente di protesta e che dà delle indicazioni, ma che poi vorrà delle soluzioni. Noi ora non è che voglio fare lo spot per me, ma noi vogliamo fare un centrodestra che stia appunto fra Renzi e Salvini. Sì, dopodiché ci si può alleare, secondo me, con Salvini e la Meloni. Sì, però noi siamo con Cameron, ecco, siamo scettici con Cameron. E la nostra fortuna è che Cameron ha detto che gli piacciamo, quindi però scusi, Bianconi, conservatori europei, voi avete puntato tutto sul candidato Schittulli. Abbiamo vinto, quello avete vinto. Bastava un voto più della Poli Bortone. Ah, vabbè, ma avete vinto al 17,97 contro il 14,68. Ma che facevate la battaglia tra di voi? Siamo stati. Milana, scusi, lei fa bene perché fa il suo mestiere e provoca. Ma non è che Fitto ha detto a Vitali: vieni in Puglia 2 mesi prima delle elezioni, cacciami tutti i candidati. Commissariami anche Cessi della stazione di Maglie, manda a fanculo tutti i miei e mettici tutti i tuoi. E non mica ha detto noi siamo stati costretti a fare questo, perché io ero uno di quelli che voleva andare via da Forza Italia, ma le garantisco che Fitto è uno di quelli che voleva stare in Forza Italia alle sue regole. Quindi dice Berlusconi ha voluto sfasciare il centrodestra in Puglia, come ha fatto con Alfano finché non l'ha mandato via, hanno avuto pace, e esattamente come ha fatto con la Russa, fin quando non l'ha mandato via non ha avuto però pace. Guardi, se conto i voti, 18% Schittulli e facciamo 15 arrotondando in alto, non si vinceva. Emiliano vinceva perché Emiliano vinceva lo stesso, questo lo si sapeva. Lo si sapeva perché Emiliano è, diciamo che è polivalente, chiudo qui perché già ci ho litigato una volta. Ah, è polivalente, insomma. Quindi vabbè, il risultato è che non avete vinto, avete perso, vi siete sfasciati. Ma non importa questo. Guardi, lei fa bene perché fa il suo mestiere. L'importante per noi è ricostruire un centrodestra credibile. Quindi avere posteggiato i voti su Salvini è un bene. Okay. E la magra di Forza Italia è un bene. Toti che vince in Liguria non incide sulla bontà di questo progetto. Sì. Ridimensionare Berlusconi è obbligatorio per ricostruire un centrodestra. Senza leader carismatici, ma anche con un progetto. Anche se ha vinto la Liguria. Un centrodestra di regole e di contenuti. Anche se ha vinto la Liguria, dice, ridimensionato. La Liguria ha fatto il fatto che non la governerà. Ma è ridimensionato, perché non è che ha vinto la Liguria. In Liguria c'è la Forza Italia che ha preso il 10% e la Lega che ha preso il 18%. Sì, anche lì no, cioè se date un'occhiata alle liste. È vero. Il punto vero è che oggi come oggi Forza Italia è un partito che ha finito la sua funzione. In Toscana, pensi, eravamo 17, sono 2 che ritornano in consiglio regionale. Quindi insomma questa è la soddisfazione che lei ha. No, di... non è la soddisfazione, è una necessità politica storica. Soddisfazione politica, dire di distruggere per ricostruire. È un ragionamento. Finché lei non spiana non semina niente anche lei con le ruspe no, guardi che è come Salvini, che le ruspe salviniane sono di un tipo, io non ho ruspe, sì, no, è chiaro, cioè, però... voglio dire che se vuol costruire un centrodestra moderato di contenuti che costruisca, come dico io, di regole e contenuti, lei bisogna che faccia i conti con questa Forza Italia. Meno ce n'è e meglio è. Va bene, intanto la ringrazio Maurizio Bianconi per essere stato con noi. Voi. Grazie, ovviamente, buona giornata. Sono tanti ascoltatori, poi parleremo di questi costi delle regioni, perché davvero oggi il Sole 24 Ore in tutto questo mette una cifra che fa impressione: quanto ci costano le regioni, 190 miliardi, 190 miliardi l'anno, quelle regioni per cui siete andati a votare. Sentiamo qualche ascoltatore. telefono è Mariano da no, c'era prima Mauro da Modena. Mauro era lì da un po'. Mauro da Modena, buongiorno. Sì. Buongiorno Milan. Eccoci. Ecco, noi in Emilia abbiamo avuto le elezioni regionali nel novembre scorso. Sì. Il candidato che poi ha vinto del PD era Stefano Bonaccini, che era segretario. Ora, in Emilia Romagna, rossa da sempre, Bonaccini ha vinto col 48% su 37% dei diritti. Lo ricordiamo, c'è stato lo scandalo dei... No, ma questo non se lo sono ricordati, il PD, hanno messo la testina sotto la sabbia. Io dico... Il Stefano Bonaccini, che era un bersaniano fino alle elezioni, poi dopo 10 giorni è passato, ha avuto la luce, ha visto la luce ed è passato da Renzi. Sì. Allora, io per primo, che non rinuncerò mai a votare, neanche sotto tortura gli ho dato il voto. Perché ma questo è passato però. Questa è cosa... passato, ma con quale risultato? Sì, però, il 67% degli emiliani e romagnoli non sono andati a votare. Ma d'accordo, Mauro, però scusi, stiamo commentando le regionali di ieri, lei ricommenta quella di un anno fa. Ma non è stato, non era un segnale ben preciso che doveva essere preso in considerazione. Ah, lei dice da questo segnale forse il PD doveva capire qualcosa. No, questo allora arrivo al ragionamento e la ringrazio. Mariano da Benevento, buongiorno Mariano. Salve, buongiorno, io la chiamo dall'introterra campana, dalla periferia, perché sostanzialmente noi qua siamo costretti tra, io sono stato tentato di non votare, poi mi sono turato il naso e ho votato De Luca perché in alternativa avevo qualcosa che si chiamava Mastella, per cui cioè, è una situazione abbastanza, come dire... E quindi è contento, De Luca starebbe vincendo, siamo al 40-96 verso il 38-21. Però... Ha setturato il naso, Cioè, non è che diciamo, il PD per cui ho sempre votato e diciamo, mi piaccia tantissimo, però è la meno peggio, cioè, che fare? Questa è la situazione, spero solo che... Io le devo essere sincero, da un punto di vista personale, il passato presidente della regione non mi dispiaceva, nel senso che penso che sia stato una persona Caldoro però ha voluto cambiare. Voglio dire, la compagine di centrodestra, io come faccio a votarla? Lei dice soprattutto quelli che ha candidato. Ma insomma, Mariano adesso metterà alla prova De Luca se vincerà, come ormai sembra abbastanza certo. Mancano 400 sezioni da scrutinare su 5.835, a 2,5% di vantaggio, quindi dovrebbe vincere in campagna. Sentiamo anche Vincenzo da Napoli, proprio sulla campagna. Vincenzo? Buongiorno, buongiorno Milano, complimenti. Io sono andato a dormire tardi e svegliato presto, quindi non abbiamo dormito molto, come lei diceva prima in campagna. Ma è importante questo risultato. Io non capisco il mio corregionale, guardi. Lei stava appena accennando ai costi delle regioni. Sì, tra poco forse, ne parliamo. De Luca, parlo da elettore che ha sposato il PD di centrodestra, che però alla fine adesso vota a PD da quando c'è Renzi, perché è l'ultimo barlume di speranza. Premetto, 5 anni fa votai De Luca ed era ancora più distante dal PD, perché De Luca dimostra di essere semplicemente un buon amministratore della cosa pubblica. Cioè lui ha cercato di fare il massimo per la città che ha amministrato. Vabbè, ma non è che uno deve giustificare il suo voto. Il suo voto è stato quello. Vincenzo, l'ascoltatore di prima, anche ha votato De Luca, ma si è un po' turato il naso. Staremo a vedere poi se vince. I politici vanno misurati giorno per giorno. Comunque Vincenzo, la ringrazio. Dopo il traffico, ma è già con noi, voglio salutare Goffredo Buccini, che è già stato con noi, inviato del Corriere della Sera. Buongiorno Goffredo, ben ritrovato. No, grazie. Allora Goffredo Buccini ha scritto di recente questo libro, Governatori, così le regioni hanno devastato l'Italia, edito da Marsilio, e metteremo insieme questo libro alla cifra che oggi il Sole 24 Ore spara in prima pagina: quanto ci costano le regioni? 190 miliardi l'anno, una media pro capite, cari cittadini che ieri avete votato, di 3.124 euro a testa, tra poco. Allora, Allora, oggi il Sole 24 Ore in prima pagina mette questo titolo: le regioni costano 190 miliardi e 3.124 euro pro capite la spesa mediamente in Italia. Poi ci sono regioni dove la spesa pro capite sale fino a 10.000 euro, come a Bolzano e Valle d'Aosta, ma lì perché sono a statuto speciale, quindi si pagano di più, pagano di più i cittadini perché hanno molti più servizi che la regione deve coprire. Comunque, regione per regione, trovate quanto è la spesa pro capite. E è un lavoro che ha fatto anche Goffredo Buccini nel suo libro Governatori, così le regioni hanno devastato l'Italia, edito da Marsiglio. Goffredo, certo, ne parliamo il giorno dopo che la gente è andata a votare alle regionali. Anche perché il giorno prima sarebbe stato ancora più devastante, meglio il giorno dopo. Dopo ci accusavano di aver provocato l'astensionismo. No, certo. Questo... Però effettivamente fa molto specie questa cifra, eh? Tu ne hai già analizzata nel tuo libro, a dire andrebbero proprio cancellate forse le regioni. Sì, io non pretendo che si cancellino con il tratto di penna, nel senso che, voglio dire, le regioni rappresentano anche, come abbiamo visto in più piccolo nelle province, occupazione, per esempio. Non è che puoi prendere le persone e buttarle in mezzo alla strada, però sicuramente bisogna lavorarci sopra in termini di razionalizzazione, di creazione delle macro aree. Quello che mi colpiva, sentivo i vostri ascoltatori, è il senso di frustrazione, di delusione che si diffonde tra gli elettori a fronte e tra i cittadini a fronte di queste cifre. Mm-hmm. Cioè, a fronte di grandi cifre di spesa non si hanno nemmeno i servizi attesi. Ricordiamoci che di questa spesa di cui stiamo parlando, sì, la sanità rappresenta tra il 70 e l'80%. Sì, infatti una media del 75% di questa spesa va in sanità. Quindi è evidente che, come dire, la pignatta da aggredire e da razionalizzare, credo con delle macro aree, insomma, è evidentemente là. Questo però significa smantellare potentati, colpire cacicchi, quindi è, come dire, un'operazione tanto economica quanto politica, e mi pare di capire che l'operazione politica, anche alla luce del dato di ieri, non sia facilissima. Sì, tra l'altro, appunto, di questa spesa che ricordiamo è 190 miliardi l'anno, il 75% circa va in sanità, poi di gran lunga arrivano i costi della politica, che sono spesso anche, devo dire, Goffredo, mediaticamente sfruttati anche da noi, a dire i vitalizi e gli stipendi, sono stipendi altissimi, ma non costituiscono la parte principale delle spese delle regioni. No, ma costituiscono la parte simbolica, sì, cioè nel senso quella che fa vergognare. Io sostengo che se noi chiediamo, come stiamo chiedendo da molti anni, degli sforzi ai cittadini italiani, la politica ha il dovere di rappresentare simbolicamente una realtà diversa. Quindi è vero che costituiscono i costi della politica poca cosa, ma in termini morali, in termini psicologici, costituiscono grande cosa. Dove si può aggredire? Ecco, la sanità che vuol dire? Cioè abbattere potentati, perché sappiamo che la sanità vuol dire anche politica, soprattutto politica, i direttori generali nominati dalla politica. Lo ammettono anche dei presidenti di regione, o ex, ormai il presidente della Campania è ex, ma Chiamparino, ma Zingaretti, insomma, avvertiti del problema. Cioè il confine tra una regione e l'altra non corrisponde mai alle esigenze di aree di cittadini, e mai alla razionalizzazione di costi, ai centri di spesa. Quindi va, come dire, sganciata la mappatura burocratica e va ridisegnata sulle aree di necessità dei cittadini. Questo sarebbe un primo passo avanti, e sono sicuro che abbatterebbe numeri di ASL e numeri di spesa. Sì, potrebbero essere già delle prime soluzioni. Tra l'altro, nella mappa di oggi sul Sole 24 Ore si ricorda che Molise e Lazio sono il record degli importi in relazione alla popolazione, cioè dal punto di vista di quanto si spende in base alla popolazione. Se si capisce, una regione più piccola è più complicato che una regione molto popolosa. È più complicato da capire per una regione che ha una popolazione come quella del Lazio, evidentemente. Anche se invece la Lombardia, che è molto popolosa, si conferma la più leggera come spesa, perché la spesa pro capite è 2.239 euro in una media di 3.124 nazionale. La Lombardia è sotto, il Lazio, il tuo Lazio per esempio, dove sei 3.796. Ma perché io tutto sommato penso e anche temo che questa mappa, queste mappe di spesa e di incidenza di spesa su singolo cittadino, rivelino anche la qualità etica della cittadinanza, e quindi della politica, e quindi della burocrazia. Mi dispiace di dirlo, io sono laziale, peraltro di sangue campano, ma ahimè devo dire che la qualità etica e il senso di responsabilità personale dei cittadini dell'Italia del Nord evidentemente talvolta è migliore. Rispecchia questo. Questo comunque, se volete leggere tutti i dettagli, io intanto ti ringrazio. Ricordo Goffredo Buccini, trovate il libro ovviamente in libreria, si intitola Governatori, così le regioni hanno devastato l'Italia, il sottotitolo insomma abbastanza emblematico, edito da Marsiglio, e lo trovate in libreria. Siamo quasi in chiusura, detto che la giornata elettorale continua perché lo spoglio non è ancora finito. Ribadisco che il centrosinistra si è guadagnato e ha conquistato 5 regioni su 7, sempre che diamo per scontata la vittoria di De Luca in Campania, perché lo spoglio è ancora in corso. In questo momento ci sono 5.458 sezioni scrutinate su 5.835, siamo addirittura d'arrivo, e De Luca è al 40,92%, mentre Caldoro è al 38,34%, 2,5 punti percentuali. Non dovrebbero esserci sorprese nelle ultime sezioni, ma staremo a vedere. Vediamo se Antonio dalla provincia di Caserta ha qualcosa da dire. Buongiorno. Sì. Che dice lei, Antonio? Allora, che dico? Dico che credo che per quanto riguarda la campagna elettorale, forse tra i due candidati la differenza sia stata soprattutto il carattere di De Luca, il modo di condurre la campagna elettorale di De Luca rispetto a Caldoro, che certamente è più mite, un po' più defilato rispetto a quella che è la comunicazione. De Luca certamente ha una capacità comunicativa con le masse che è diversa. Però, se posso permettermi, Milan, guardi, io sono un segretario comunale che adesso sta tornando dal lavoro perché ha fatto la full immersion, e quindi sono oggi qui, notte elettorale. Sì, io sono. E com'è andata? C'è stato qualche problema? Guardi, tutto a posto? Nel comune dove sono titolari attualmente, la situazione è stata abbastanza gestibile. Soliti problemi con presidenti poco esperti che fanno. E che comune è? In provincia di Caserta? No, sono fuori provincia, però le volevo dire, se posso permettermi, anzitutto di sollevare un grido di dolore per la categoria. Lei sa, noi segretari comunali, che cosa siamo, cosa facciamo, e siamo addirittura di arrivo, perché sembra che il governo Renzi ci voglia eliminare. Ma se posso permettermi ricollegamento con l'intervento di Buccino sulle regioni, io sono stato personalmente 2 anni in comando presso la regione Campania come dirigente amministrativo, e quindi, se mi permette, ho visto la situazione sia dal lato dei comuni sia dal lato delle regioni. Le posso dire, anzitutto, credo che le regioni, o almeno la Campania, potrebbe fare benissimo ciò che deve fare con la metà delle risorse umane e strumentali. Quindi metà di persone. Penso di sì. E poi le posso assicurare, guardi, come segretario comunale che quotidianamente opera nelle realtà degli enti locali, ecco, c'è una giungla legislativa che è paurosa. Ma questo è un altro problema. No, però si fermi qui, Antonio, perché sennò sforo su 2 ore sarebbe un po' il culmine. Anzi, il colmo. Il culmine. Ma oggi parlo così. Che vi devo fare? E sono sveglio dalle 5, non rompete i miei maroni. Dai, ci fermiamo qui. Domani sono qua alle 6:30. Ciao. 24 mattino.